Radio Onda Rossa 87900 della modulazione di frequenza, telefono 06491750, dunque siamo poco oltre le 21 e dovrebbe essere l'orario di Solaris, ma a quanto pare questa sera non va in onda, quindi diciamo prenderemo un breve recupero sul suo orario senza così lasciare la radio da sola con il compagno automatico. E dunque, in attesa di un evento che ci sarà subito dopo il mio spazio, che è appunto la diretta radiofonica con la festa della radio che si tiene a Villa Mercede. Dunque, vi manderò in questo appunto spazio che ci rimane, che un concerto che appunto riprendendo l'autore che abbiamo sentito all'inizio, Francis Poulenc, vi manderemo il concerto in Do minore per due pianoforti e orchestra FP61. Ve lo mando scusate, in Re minore. Ve lo mando in versione integrale: allegro ma non troppo il primo tempo, larghetto al secondo tempo, il finale allegro molto. La Boston Symphony Orchestra interpreta, diretta da Seiji Ozawa. I pianoforti sono quelli di Katia e Marielle Labbeck. Thank you. Thank you. La Vionerosso 87900 della modulazione di frequenza, telefono 06491750, sempre qua da quel di Via De Volsci numero 56 a tenervi compagnia. Allegro con fuoco, sostituzione temporanea naturalmente di Solaris che quest'oggi, che questa sera non ha trasmesso. E dunque continuiamo con un altro po' di musica. Abbiamo appena ascoltato il pezzo di Francis Poulenc, il concerto per due pianoforti e orchestra FP61 in re minore. E nei tempi allegro ma non troppo il primo, larghetto il secondo, finale allegro molto il terzo, interpretato dalla Boston Symphony Orchestra, diretta da Seiji Ozawa, e che vedeva la splendida esecuzione delle sorelle Labeck, Katia e Marielle Labeck. E dunque, che cedono il posto, un altro pezzo che mettiamo per i loro due pianoforti, sempre quelli delle sorelle Labeck, in questa proposizione per solamente due pianoforti della Rhapsody in Blue di George Gershwin. Dunque, un buon ascolto, sempre da queste frequenze, gli 87.9 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio, e su web attraverso il sito ondarossa.info. Colgo naturalmente, mi allieta cogliere occasione per ricordare appunto i numeri di riferimento di questa radio, che sono anche e soprattutto il numero di conto corrente postale, che è il 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, Via De Volsci numero 56 00185 Roma, che è l'unico strumento di sostentamento di questa radio, e a parte quello di venire direttamente qua in radio a contribuire all'andamento economico di questa radio, appunto, che non fa alcun tipo di pubblicità, non prende nessun tipo di sovvenzionamenti pubblici né privati da nessuno, e quindi si regge solamente del sostentamento dei propri ascoltatori e ascoltatrici, dei compagni e le compagne che da anni la seguono, la vivono e la ascoltano. E questo dunque un messaggio che va più volte da queste frequenze, gli 87 e 9, e è un messaggio importante perché significa far sopravvivere nell'etere e nel web questa radio Onda Rossa. E dunque, niente, ci concediamo l'ascolto di questo Rhapsody in Blue solamente nella versione per due pianoforti, Katia e Maria della Beck le interpreti. Scusate, niente, ho sbagliato traccia. Vi mando subito quanto vi avevo annunciato. Dunque, Radio Onda Rossa 87900 della modulazione di frequenza, avremo sicuramente modo di riascoltare questo pezzo magnifico, questa interpretazione delle sorelle della Beck con sui due pianoforti in questa Rhapsody in Blue di George Gershwin. Ma appunto è arrivato questo il momento che vi avevo annunciato, quello dello streaming, quindi vi mandiamo subito la diretta appunto da Villa Mercede. 7 luglio del 1962, che era sabato come domani, quindi c'è anche una coincidenza di identità di fine settimana, diciamo così, e noto come la rivolta di Piazza Statuto. un fatto importante, decisivo per molti versi, che però è stato cancellato dalla memoria, non se ne parla e non se ne è parlato neanche questi giorni. Io devo dire anche con una certa sorpresa, perché immaginavo che comunque almeno una parte, una certa parte della sinistra, di quello che ancora oggi può esistere in Italia di sinistra, ne avrebbe parlato. Invece non è stato così, è stato, penso, volutamente ignorato, perché ancora oggi evidentemente è un fatto che dà fastidio. Dà fastidio perché non si comprese allora, non si volle comprendere, furono dati giudizi che, come vedrete, come sentiremo, insomma, sono molto simili a quelli che abbiamo sentito anche recentemente in occasione di altri avvenimenti. Comunque un fatto importante che va collocato brevemente anche nel suo contesto storico e nella sua significatività, perché era un periodo quello in cui si veniva da un lungo periodo in cui non c'erano lotte, non c'erano scioperi. La condizione operaia, soprattutto nelle grandi fabbriche del nord, era molto pesante. Sia per il livello di sfruttamento, si lavorava 48 ore settimanali, più gli straordinari, le paghe erano basse. Era una classe operaia fatta di molti immigrati. Torino in pochi anni aveva raddoppiato la popolazione. Le grandi fabbriche del nord avevano assorbito quella che una volta, pochi anni ancora prima, era un'emigrazione che andava soprattutto all'estero, magari in Belgio. Chi si ricorda della tragedia di Marcinelle ricorderà sicuramente quanti minatori italiani venduti letteralmente, perché ci fu un contratto all'epoca tra il governo italiano e il Belgio che ci dava carbone in cambio della manodopera. Lo sviluppo industriale del nord consentì un'immigrazione interna che non era un po' meno pesante, ma insomma non scevra da problematiche per questi lavoratori che salivano dal sud al nord e venivano trattati un po' come i migranti vengono trattati oggi da molti nostri connazionali. Dormivano 6-7 per stanza, insomma c'era un certo razzismo neanche troppo nascosto, e però servivano perché erano ubbidienti, perché lavoravano, perché si adattavano a tutto. Questo è durato per tutti gli anni 50, in cui, come dicevo, perfino il sindacato aveva perso molto nelle fabbriche, la FIOM aveva perso la maggioranza nelle commissioni interne. Le commissioni interne erano nei primi anni 60 dominate dalla UIL e dal SIDA, che era un sindacato giallo, un sindacato padronale. E quindi quando all'inizio degli anni 60 comincia viceversa un certo fermento, e quindi questa situazione comincia a cambiare, nessuno ha fiducia che ci sia una ripresa dell'iniziativa da parte dei lavoratori, soprattutto dei lavoratori operai. E quindi i primi scioperi che cominciano nel 1962 alla Lancia, alla Michelin, scioperi che durano un mese, durano 3 mesi, non sono gli scioperetti di oggi. Per quanto significativi, ancora non danno quella fiducia in tutti i lavoratori di riuscire a smuovere questa situazione. Finché si arriva, dopo gli scioperi del giugno, gli scioperi del febbraio, appunto del 62, si arriva a luglio del 62, in cui per la vertenza dei metalmeccanici, il sindacato chiama a 72 ore di sciopero. 72 ore di sciopero oggi sono impensabili, è un numero impensabile, insomma, si fa fatica, cioè fanno fatica i sindacati a proclamarne 8. Proclamarne 72 ci dà subito il senso della disparità, della necessità, dei livelli che c'erano ieri rispetto ad oggi. Queste 72 ore di sciopero cominciano il 7 luglio, ma vengono precedute da un annuncio della Fiat che dice sulla stampa, nel senso sui quotidiani, ma in particolare proprio sulla stampa, che era il giornale degli Agnelli, dice: abbiamo fatto l'accordo, state tranquilli, ci sono dei soldi, insomma, proprio nel tentativo di fermare questa protesta. La protesta però non viene fermata, anche perché l'accordo era evidentemente un bidone, era un premio, una piccola elargizione di denaro. La protesta non viene fermata, lo sciopero riesce molto bene con dei picchetti molto duri, lo sentirete dal racconto che ne faranno poi Tamara Bartolini e Michele Baronio, proprio dal libro fondamentale che vi invito a leggere per chi non lo conosce, che è quello di Dario Lanzardo, che si chiama proprio La rivolta di Piazza Statuto. E quindi riesce questo sciopero, ma oltre alla riuscita dello sciopero, c'è una nuova incazzatura tra gli operai ed è quella dovuta proprio al fatto che la UIL e il SIDA hanno firmato un accordo con la Fiat. E allora spontaneamente questa massa di operai converge verso il centro di Torino, in particolare va proprio a Piazza Statuto perché? Perché lì c'è la sede della UIL. E gli operai attaccano questa sede, cominciano a fischiare, cominciano ad attaccare i cordoni di polizia, ovviamente c'è la reazione, eccetera, eccetera. Si tenta l'assalto a Piazza Statuto, da lì comincia una lunghissima serie di scontri che si protrae per 3 giorni. Si protrae non solo per 3 giorni consecutivi, cioè il sabato, la domenica, e riprendono il lunedì, insomma, no? Con maggiore intensità addirittura, ma gli scontri si protraggono per 12 ore di seguito. Lo potete leggere dai giornali, insomma, no? Qui i compagni dell'università, compagni e compagne dell'università hanno fatto questi pannelli in cui vengono affissi i giornali dell'epoca, i maggiori giornali dell'epoca, non tutti, e trovate accanto anche i giornali di oggi sulle manifestazioni del 15 ottobre e del 14 dicembre, ed è interessantissimo vedere il taglio che non è cambiato affatto. In 50 anni si parla di teppisti, di provocatori, di gente assoldata, insomma, 50 anni fa e oggi sono le stesse cose. Sembra che veramente i cronisti siano una categoria mummificata, non cambiano mai, sicuramente lo sono nel pensiero e nello scrivere. Comunque questi scontri si protraggono fino a tarda notte, insomma, fino alle 2, alle 3, alle 4 del mattino e riprendono il giorno successivo. E a quel punto non sono più solo gli operai delle fabbriche, che non sono solamente le grandi fabbriche, ma ci sono anche le piccole fabbriche dell'indotto, ma c'è mezza città, c'è un proletariato diffuso, ci sono lavoratori di tutti i tipi che partecipano a questa iniziativa. E questa iniziativa dà proprio un colpo forte di quelli che Marx diceva sono quegli avvenimenti che cambiano il corso degli eventi. Non l'avrà cambiato a livello internazionale sicuramente Piazza Statuto, ma l'ha cambiato per quanto riguarda la situazione italiana. E l'ha cambiato non solo per quello che attiene il dibattito e che sarà poi il dibattito dentro la sinistra istituzionale, che non aveva capito niente, come non capì nel 68, come non capì nel 69, come non capì nel 77 e così via. Insomma, si ripete questo non capire della sinistra. Qualcuno potrebbe dire che è voluto o cercato, ma diciamo pure che è un'incapacità, non diciamo di più, non è necessario in questo momento. Oltre a non capire, da parte della sinistra non si capì neanche a livello generale, salvo quelle persone, quegli intellettuali, quegli uomini di pensiero, ma anche per uomini di spettacolo, di cultura, che viceversa colsero il significato di quella grande rivolta, il significato di quella cosa che diceva, che intanto parlava un linguaggio che non era il dialetto piemontese, perché era già un dialetto misto, campano, napoletano, pugliese, non c'erano più gli operai piemontesi che avevano fatto gli scioperi del 43. Qui c'era una nuova classe operaia che veniva dal sud, parlava un linguaggio diverso e si era messa alla testa di queste lotte mettendo da parte le commissioni interne, perché erano ormai vecchi arnesi, non solo perché erano gli arnesi del fascismo, ma perché non servivano più, perché le richieste, come leggerete se ne avrete voglia, insomma, erano avanzatissime. Si chiedevano i comitati di reparto, il delegato di reparto, poi vennero fuori nel 69 i consigli dei delegati, che era già una mediazione, ma già nel 62 chiedevano il delegato di reparto, che era avanzatissimo, insomma, perché significava una rappresentanza, una capacità di rappresentatività estremamente puntuale e precisa, così come chiedevano le 40, le 35 ore settimanali. Che sembra che quando le chiese poi Bertinotti qualche anno fa sembrava chissà che, le chiesero l'operaio nel 62, c'erano queste di richieste già in quella classe operaia 50 anni fa. Questo è il senso, no? Specifico per quanto riguarda il mondo del lavoro. Ma questo colpo che fu battuto a Torino trascinò con sé altri settori, che dicevo appunto sono quelli della cultura, sono quelli dello spettacolo. Monicelli, per citare un nome a noi caro, penso a tutti, che è sempre stato il più sensibile. Nel 63 fa I Compagni, quel film che è proprio che narra della condizione operaia, sia pure di altri tempi, ma lo fa nel 63, non a caso. E poi vengono La vita agra di Lizzani, poi viene Metello di Bolognini, poi vengono i film di Bellocchio, viene Petri con La classe operaia va in paradiso, viene Scola anche, Scola, che è sempre così distaccato per certi versi da certe cose, non può fare a meno, fa Trevigo-Torino, viaggio nel Fiat Nam, non possono fare a meno di prendere in considerazione e di porre attenzione a questo nuovo protagonista che è entrato pesantemente e imperiosamente sulla scena, che è la classe operaia, almeno nel secondo dopoguerra, perché poi c'era stata anche prima, ma nel secondo dopoguerra comincia lì, comincia con Piazza Statuto e comincia in un modo secco, batte un colpo secco, non dà un avviso morbido, batte proprio un colpo secco. E così come il cinema, pensiamo, non so, al settore letterario, il gruppo 63, Balestrini, Sanguinetti, Eco, Arbasino, il gruppo 63 nasce nel 1963, il nuovo canzoniere italiano nasce nel 1962-63, da cui poi vengono fuori, c'è la ripresa di tutti i canti folcloristici, che in buona parte sono contadini, non sono operai, ma questo è un altro discorso. Poi viene Della Mea, viene Giovanna Marini, Bertelli, insomma, Pietrangeli. Ecco, queste cose nascono, dice, ma tutto dipende da là. Quello è stato un colpo, che tutto sia dipeso da là è difficile dirlo, è difficile affermarlo, sarebbe in qualche modo quasi temerario, ma certamente le cose non furono più come prima, per quel colpo battuto dalla classe operaia torinese in quel momento svegliò tutti quanti, e solo chi non voleva capire non si è svegliato. Ovviamente la parte più consistente del significato di Piazza Statuto sta nel dibattito politico, in quello che poi ha attraversato tutta la sinistra, soprattutto quella extraparlamentare o rivoluzionaria, perché con Piazza Statuto, a cui partecipò indirettamente e di cui si occupava della condizione operaia, soprattutto la rivista Quaderni Rossi, in cui c'era Panzieri, c'era il meglio dell'intellettualità italiana di sinistra, diciamolo pure, Montaldi, Negri, Asorrosa e tanti altri, Riese, insomma, non me li ricordo tutti, perdonate, ma insomma non è questo il problema. Con Piazza Statuto inizia all'interno di Quaderni Rossi, che pure aveva distribuito un volantino il giorno prima di questa rivolta, tant'è che poi il Partito Comunista addirittura tentò di mettere sotto accusa i componenti della rivista Quaderni Rossi, perché dice: voi avete provocato col vostro agire, insomma, avete fomentato una ribellione, un ribellismo che poi è sfociato in questi disordini, eccetera, eccetera. E lì le difese, ma insomma, mettiamo da parte queste piccole meschinità. Comincia un dibattito grosso dentro Quaderni Rossi che arriva fino a una scissione. Panzieri rimane con Quaderni Rossi, Negri, Asorrosa e Tronti si staccano da Quaderni Rossi e fondano Classe Operaia. Qual è il problema? Non è la spaccatura di una rivista, evidentemente. È sull'interpretazione, sul significato di Piazza Statuto, e in particolare su che cosa? Sul significato dell'autonomia operaia, perché con Piazza Statuto nasce, è il punto, è la presentazione di questa categoria, perché fino a quel momento era considerata una categoria e lo sarà ancora per molto tempo. L'autonomia operaia si ragiona, ma l'autonomia operaia è un comportamento, ma possono farcela così, possono andare avanti così, oppure hanno bisogno comunque di un'intelligenza esterna che li diriga, e qui di tutti i discorsi che possiamo immaginare sul ruolo del partito, dell'avanguardia, eccetera, eccetera. E questo modo di ragionare che attraversa buona parte, direi tutti gli anni 60, e che poi si trascinerà anche dopo, fa sì che sembri l'autonomia operaia una categoria indomabile del pensiero, ma proprio perché era ancora mantenuta da questi compagni, intellettuali, dentro un'astrazione che non faceva i conti con la realtà, fino a quando questa indomabile categoria del pensiero si trasforma viceversa in una materialità concreta, perché nascono veramente gli organismi autonomi operai. Nascono a Milano con l'Assemblea Autonoma dell'Alfa Romeo, nascono col Comitato di Lotta della SIT Siemens, nascono col Comitato di Rivalta, il Comitato Operaio di Rivalta a Torino, a Marghera con l'Assemblea Autonoma e a Roma con i Comitati Autonomi Operai qui di Roma. Quindi l'autonomia operaia prende anche corpo, diventa non un'essenza, non una cosa che sta lì e che si manifesta con delle pulsazioni che a volte ci sono, a volte non ci sono, uno spettro che si aggira, no, comincia a prendere corpo, volto, comincia anche a prendere voce se vogliamo, e comincia a organizzarsi e comincia a diciamo, proliferare fino poi a venire fuori quello che sarà negli anni 70 il movimento generalmente indicato come l'autonomia operaia. E questo il resto non va avanti perché in qualche modo, non dico che è storia di oggi, ma insomma tutta questa storia non è ancora storia, almeno per me, per quanto mi riguarda, è ancora attualità. Per me è sbagliato storicizzare queste cose, insomma, no? È ancora troppo presto, o comunque se non è troppo presto è troppo facile, troppo comodo consegnarla alla storia e metterle là. Anche perché se è questa l'unica iniziativa in Italia, per quello che è la mia conoscenza, che parla di Piazza Statuto, significa che nessuno c'ha voglia di parlarne. E quando nessuno c'ha voglia di parlarne, significa che ancora questa cosa non si può consegnare alla storia e metterla lì in archivio. Perché sono cose che ci tirano per la giacchetta, così come tante cose del Novecento che si vogliono buttare via. Detto questo, ancora di più allora, se questo è stato l'inizio di una storia o l'incipit di una lunga narrazione che è cominciata nel 62 e è durata perlomeno fino al 1980, diciamo, e vedremo dai filmati di Alfio Di Bella che tipo di classe operaia c'era ancora nel 1980, come era in grado di ragionare e che tipo di ragionamenti faceva, che non erano affatto operai rassegnati. Allora, che fine ha fatto questa classe operaia? Ecco, sicuramente non abbiamo la risposta e sarebbe anche presuntuoso tentare di darcela, insomma, ma non è neanche questo il problema. Perché potremmo dire che la classe operaia si è trasfigurata nelle nuove figure del lavoro precario e diffuso, oppure potremmo altrettanto semplicemente dire che sta seguendo il lavoro della vecchia talpa, per cui quando nessuno se l'aspetta sbucherà da qualche parte, no? In un'altra forma, magari, eccetera, eccetera. Ma la serata di questa sera non è da parte nostra, come l'abbiamo concepita, indirizzata tanto a un ragionamento di questo tipo, quanto e quindi è anche assente da quella, è fuori, diciamo, da quello che è il dibattito canonico o quel dibattito che è stato per tutti questi anni, per parecchi anni. Insomma, gli ultimi no, perché se ne parla poco, ma per tutti gli anni 70 e 60 e anche un po' dopo, è stato quel dibattito particolarmente militante, particolarmente specialistico, che ha segnato, diciamo, anche nel linguaggio, nei comportamenti, nella postura, un atteggiamento che questa sera abbiamo voluto evitare. Abbiamo voluto evitare perché ci interessa soprattutto una cosa. Pensando alle nuove generazioni, trasferire una memoria che si vuole cancellare sempre di più e Piazza Statuto fa parte integrante di questa operazione e quindi invitare cioè dare qualcosa effettivamente alle giovani generazioni e nello stesso tempo rendere giustizia a quella classe operaia, a quei protagonisti del passato che secondo me hanno dato tutto quello che potevano dare negli anni in cui sono stati vivi, presenti e hanno lottato per tutti quanti. Grazie. Adesso, prima che Tamara e Michele, interpretino queste pagine del libro di Dario Lanzardo, uno spot, un mini spot di 3 minuti video che illustra un pochino quelle che erano, le lotte che si svolgevano nel 1962. E allora, sempre in diretta da Villa Mercede, vi stiamo rimandando questo convegno intitolato Che fine ha fatto la classe operaia? Questo era l'intervento introduttivo, adesso ci andiamo ad ascoltare direttamente l'audio di alcuni filmati che sono proiettati all'interno di questa iniziativa. Trasformare gli operai in borghesi. Che solo in parte gli è stato pagato con il suo salario. un operaio, 100.000 operai possono lavorare per il progresso del capitale, ma la classe operaia non può. Queste immagini documentano e interpretano uno sciopero. Lo sciopero è quello dei 6.000 operai della Lancia di Torino. È durato dal 17 gennaio al 12 febbraio 1962. Nel maggio del 61 solo 500 operai avevano aderito a uno sciopero indetto dalla FIOM. Ma negli ultimi mesi dell'anno i sindacalisti della CGIL individuano nuovi quadri, cercano una base comune anche alle altre correnti e finalmente presentano alla direzione uno schema rivendicativo. Si richiedono aumenti delle paghe orarie base di categoria, rispettivamente di 40, di 60 e di 80 lire. Riduzione di orario. Parità salariale dei nuovi assunti. Premio di produzione collegato al rendimento. Terza settimana di ferie. Assunzione a tempo indeterminato dei 2.000 contrattisti, cioè degli operai assunti a termine, dunque i più sfruttati e disarmati e ricattati, ma che per questo saranno l'anima dello sciopero. Il giorno 13 di giugno i metalmeccanici italiani scendono in sciopero per il rinnovo del loro contratto di lavoro. Alla Fiat non si sciopera da un decennio. La mattina del 14 i giornali annunciano che a Torino, alla Fiat, hanno scioperato 300 persone. Che cosa accade nei sei giorni che vanno dal 13 al 19 di giugno? Come comincia la fusione della classe dove per 10 anni si era teorizzata, esaltata, praticata la divisione di ogni operaio da ogni altro operaio? Il 19 scioperano in 7.000. 4 giorni più tardi, il 23, in 70.000. Chi è vivo non dica mai. Lo sciopero della Lancia ha fatto vedere come gli operai di una fabbrica dei nostri giorni ricostituiscano nel corso della lotta l'unità di classe, che l'azione del capitalismo tende invece, per poter sopravvivere, a rompere quotidianamente. E la classe non può dividersi in settore pubblico e settore privato. Non dimentichiamolo, azienda di Stato non vuol dire azienda socialista. Il modo più sicuro di migliorare il sistema è quello di abolirlo. L'operaio di Stato, per esempio l'operaio dell'Alfa Romeo che lavora, non deve correre il rischio di farsi crumiro dell'operaio privato che sciopera. E dire unità della classe non è la stessa cosa che dire unità sindacale. L'unità sindacale è utile. L'unità di classe è necessaria. Anche se la conclusione di ogni lotta sindacale conferma il sistema, c'è in ogni lotta sindacale un momento dall'alto del quale si può scorgere la fine del sistema. La rivoluzione politica è la prosecuzione di quel momento. A centinaia su sirti. Travai, la nanga già una gran battaglia, è il nemis del capitale, del capitale. Buonasera a tutti. A nome del Roma Fringe Festival che vi parlo, ringrazio, sarò brevissimo, ringrazio Radio Onda Rossa di

Se oggi nessuno ha timbrato è perché non serviva. E nelle galere han portato chiunque reagiva. Peccato che il tempo sia stato fissato da loro, invece che nascere prima dal nostro lavoro. Nei campi nessuno ha guardato se il tempo è cattivo. Nei prossimi giorni il sereno non porterà cibo. Ma stacca dal chiodo il tuo pezzo di sano potere. Se il tempo è fissato da loro, non stare a sedere. Non vincono, non vinceranno, non hanno futuro. La forza è nel puntello impugnato da oneste e fortissime mani. Il prossimo fuoco sarà ravvivato da noi. Nel posto e nel tempo, nel modo fissato da noi. Nessuno potrà soffocarlo, diventerà immenso. Mi sembra già di vederlo se solo ci penso. Non vincono, non vinceranno, non hanno domani. La forza è nel puntello impugnato da oneste e fortissime mani. Grazie. E allora buonasera, c'è un piccolo cambio di programma, ci sono i lavoratori, c'è una rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici che stanno occupando Cinecittà, che per questioni di tempo non può rimanere per partecipare alla tavola rotonda, quindi diamo loro la parola per un breve intervento e poi proseguiamo con i video e il proseguo del programma. Mi tolgo queste cose qua. Mi sono messa a piangere, se no non si doveva venire. Le cose così. Sono spariti i lavoratori di Cinecittà? Non ci credo. Sono spariti adesso? Sono spariti? No, ci sono. Eccoli. Non siamo l'effetto speciale, siamo veri, eh? Scusate dell'intermezzo, ma probabilmente voi avete in mente un altro tipo di serata. Faremo, cercheremo di essere, così metto in mezzo, i più brevi possibili. Noi siamo lavoratori, rappresentanti sindacali e siamo in lotta. Non so se voi avete seguito i giornali, la televisione ultimamente, stiamo facendo uno sforzo enorme perché i mass media non si occupano più di queste cose. Siamo lavoratori di Cinecittà Studios, i famosi studi di Cinecittà, quelli che hanno reso famoso il cinema nel mondo, quelli dove tanti lavoratori come noi, prima di noi, hanno contribuito a rendere grandi le scenografie, no? Pensiamo sempre al Ben Hur, ma pensiamo pure ai film più recenti. che sono tantissimi, che sono per esempio Il nome della rosa, che sono The Passion. Voi dovete pensare a The Passion, come qualcuno erroneamente pensa, non è stato fatto a Matera. La quasi totalità, Gerusalemme, il Tempio era dentro Cinecittà, per dire poi la capacità, non per vantarci, insomma la bravura, e quello che ci hanno trasmesso tanti artigiani a noi e noi vorremmo trasmettere ad altri. Beh, questa possibilità, questo sogno, anche per tanti ragazzi che fanno le scuole di cinematografia, sta per essere spezzato definitivamente. Questo grazie all'ingordigia, l'ingordigia di Luigi Abbede, l'ex presidente della Confindustria, nonché presidente della BNL e tante altre aziende. Perché questo signore, al quale lo Stato fa, ha dato in gestione i servizi, non la proprietà, i servizi degli studi, e 250 persone, che siamo noi e tanti altri nostri colleghi, beh, a questo signore è stato dato un compito, attraverso la privatizzazione, di rilanciare, riorganizzare studi già famosi, che non avevano certo bisogno di lui e delle sue incapacità per essere famosi nel mondo. Questo signore oggi vuole inondare di cemento Cinecittà e di fatto chiuderla, licenziando di fatto i 250 persone e tutti i lavoratori che fanno produzione, costruiscono le scenografie e tutta la vostra produzione, l'audio, lo sviluppo della pellicola e tutte le altre attività, affittando i lavoratori, vendendoli e licenziandoli. Per fare cosa? Per costruire alberghi, ristoranti, piscine dentro Cinecittà. Questo noi crediamo che al di là della battaglia sacrosanta, piena di dignità, che ogni lavoratore, quando è messo in discussione il proprio posto di lavoro, vuole, come non gesto estremo, ma come gesto di ribellione, perché il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione, di cui troppo spesso ci dimentichiamo, ce lo diciamo, poi ce ne dimentichiamo. Ebbene, questo diritto che viene calpestato, noi non soltanto vogliamo con forza, con tenacia, conservarlo, renderlo nostro e renderlo anche vostro, ma soprattutto diciamo che in gioco questo va oltre quelli suoi compiti forse del lavoratore solo, ma noi lo stiamo facendo, vogliamo preservare e conservare un bene che è della città, che è del paese, che è del mondo. La distruzione di Cinecittà rappresenta un crimine e noi chiediamo a voi, ai mass media, ai tanti che oggi non ci ascoltano, che questo crimine, no, lo venga impedito, che voi ci aiutate affinché non venga commesso, perché se i lavoratori vanno via, vengono cacciati, e questo progetto assurdo, speculativo, che umilia la città, umilia la dignità, umilia la cultura, umilia le coscienze di un paese già fiaccato da una crisi profonda, dove non ci sono più valori. Ecco, noi diciamo, da lì si può ripartire, quello è un pezzo di storia, un pezzo di identità nostra, vostra, dei cittadini che ci sono oggi e quelli saranno domani. Noi vogliamo che quel bene sia conservato, preservato, sviluppato, perché da lì nasce la sapienza dell'arte, della conoscenza. La cinematografia non è soltanto il vedere, è un gesto forte di comunicazione, ho tanti linguaggi, di espressione. E questo deve essere cancellato in nome di che cosa? Degli appetiti speculativi, dei soliti nodi, dei poteri forti. Noi vogliamo, con questo nostro grido, dire basta ai poteri forti, contro i poteri forti che ci umiliano e umiliano il futuro. Vogliamo dire tutti, dateci una mano, aiutateci, comunicate affinché, ripeto, questo crimine non venga consumato. Noi ci siamo, ci saremo, saremo lì nei prossimi giorni, stiamo facendo uno sciopero di 8 ore da 5 giorni, continueremo, l'abbiamo occupato in nome di questo diritto nostro e vostro. Questo è il nostro grido e noi vogliamo che insieme a voi, insieme ai cittadini, insieme a tutti quelli, la cultura, quelli che sono i tanti assenti, quelli oggi non ci sono e che ci dovranno essere, ci diano siamo con voi. Noi vogliamo che voi siate con noi affinché questo non avvenga. Grazie. Normalmente dice sarò breve, poi si prende tutti gli spazi. Ma noi vogliamo ringraziare, perché abbiamo stravolto un po' il programma, la scaletta, e vogliamo ringraziare per l'ospitalità e per il fatto di aver appunto permesso a noi di intervenire subito, perché dobbiamo correre a Cinecittà, in quanto Cinecittà è occupata, noi la stiamo occupando, quindi invitiamo tutti quelli che sono dalla nostra parte, che pensano che questa sia una battaglia giusta, a mostrarci il loro sostegno venendo lì nei pressi di Cinecittà, negli stabilimenti che sono sulla via Tuscolana, e di passare la voce a tutti quelli che magari non lo sanno, perché come diceva il mio collega è molto difficile far passare la notizia e divulgare, a sostenerci e magari anche a venirci a trovare. Grazie molte. Vi ringraziamo noi. Allora, io un intervento brevissimo, beh, ringrazio le lavoratrici e i lavoratori di Cinecittà, e semplicemente per ricordare, fra poco andremo a vedere un video di cui poi Antonella ci spiegherà meglio, comunque si tratta di un video che fa parte di una restaurazione, chiamiamola così, che Radio Onda Rossa sta facendo a livello di audio e di video per quanto riguarda la sua memoria. Radio Onda Rossa è nata nel 24 maggio 1977, attraverso i suoi microfoni sono passate tantissime lotte di tutti i movimenti, appunto dal 77 ad oggi, e diciamo un patrimonio che c'ha solo Radio Onda Rossa. Ecco, stiamo cercando in quest'ultimo periodo di rendere pubblico questo materiale, questo archivio, questa memoria fatta di persone che hanno trasmesso dentro gli studi di Viale Volsci, ma anche di tutte le compagne e compagne che negli anni hanno chiamato, hanno fatto le corrispondenze dalle piazze, hanno raccontato la vita politica delle piazze in tutta Italia. E quindi stiamo cercando di rendere appunto questo, di recuperare questo audio tramite l'Università La Sapienza di Roma, per fare un archivio pubblico che sia poi accessibile a tutti quanti, e abbiamo cercato, stiamo cercando parallelamente di recuperare invece l'archivio video e fotografico di un compagno che è passato per la radio, Alfio Di Bella, di cui appunto vedrete adesso un pezzo per quanto riguarda la Fiat del 1980, appunto. Quindi io volevo ringraziare il laboratorio, la camera ottica dell'Università di Udine, che ci ha permesso insomma di restaurare o comunque di riportare in formato proiettabile questi e poi ha tanto altro materiale di Alfio, che fa parte appunto di quella memoria audio e video che cercheremo di mettere in circolazione il prima possibile. Grazie. Allora, ci dovrebbe essere adesso la foto di Alfio, ma comunque Alfio è stato un compagno, non c'è più Alfio, se n'è andato il 21 novembre del 2006, ed è stato un compagno di Radio Onda Rossa praticamente dall'inizio. Ha curato per diversi anni una trasmissione che si chiamava Controimmagine, e perché Alfio era un fotografo, era eccolo, sembra duro ma era un duro dal cuore tenero, e era un fotografo, era un grandissimo compagno. Io di Alfio vorrei testimoniare soprattutto la sua grandissima coerenza come compagno, come uomo, una coerenza che non è mai venuta meno in tutta la sua vita. E però quando uscirono fuori i primi videotape, che necessitavano fra l'altro di una strumentazione pesantissima, credo che nessuno oggi forse ce la farebbe a trascinarsela dietro come faceva Alfio, lui si dedicò anche a questo tipo di lavoro. Alfio ha sempre documentato tutto quello che ha visto e stava dappertutto, e quindi ha visto tanto. Il patrimonio di fotografie, di diapositive e di filmati di Alfio è veramente sterminato. Noi l'abbiamo un po', insieme appunto a Cristina, a Giorgio e a Anna, l'abbiamo un po' rivisto e abbiamo cercato appunto di recuperarlo per riversarlo in modo che non andasse perduto. Quello che vedete stasera è appunto una parte di un numero grande di nastri che Alfio girò nel 1980, quando la radio andò proprio come Radio Onda Rossa a Torino durante l'occupazione della Fiat. E credo sia una testimonianza molto bella, molto importante, di com'erano le lotte all'epoca, di che cos'era quella classe operaia. Alfio, fra l'altro, è stato, dicevo, dappertutto, è stato a Comiso, è stato nelle lotte antinucleari, nell'occupazione delle case, è stato per esempio una presenza fondamentale non solo come testimonianza visiva ma anche come impegno politico durante il terremoto dell'Irpinia, dove addirittura l'avevano chiamato, soprannominato il sindaco di Sant'Andrea di Gonza. E tutto questo patrimonio lui l'ha gelosamente archiviato in modo anche da rendere, diciamo, abbastanza semplice poi riuscire a organizzarlo e a, quindi a, diciamo, a catalogarlo e a renderlo poi fruibile. E è con grandissimo amore da parte mia e da parte di molte compagne e compagni che sono qui e che l'hanno conosciuto che noi vogliamo dedicare appunto questi filmati a lui e ringraziarlo, anche se non lo so se ci può sentire, e ringraziarlo comunque con tutto il cuore per tutto quello che ha dato non solo alla radio ma a tutti noi anche come persone e soprattutto a tutto il movimento che in tanti anni ha continuato in ogni modo anche attraverso Radio Onda Rossa a testimoniare la volontà di lotta di tutte e tutti noi. Probabilmente in seguito a questo qua, infatti ora, con l'apporto della tecnologia ci stia meglio anche come salute, quindi la tecnologia non soltanto al servizio del profitto, ma tecnologia al servizio della comunità, perché grazie alla tecnologia io penso che in un prossimo futuro, nemmeno tanto remoto, si potrebbe star meglio nei posti di lavoro e senza andare ad incidere su quelli che sono poi i costi di produzione. Appunto noi qui a Rivalta abbiamo avuto in questi ultimi periodi dei grossi lavori di ristrutturazione sia in astroferratura e forse è sorto il problema dell'occupazione, probabilmente in seguito a questo qua, infatti moltissimi lavoratori dell'astroferratura sono stati trasferiti in altri reparti proprio grazie all'apporto di questa tecnologia qua. Appunto io lo ribadisco ancora una volta, la tecnologia va bene, ma non che sia tecnologia a servizio del capitale, a servizio del profitto, ma che sia tecnologia a servizio della comunità. Noi non facciamo un cazzo, ma in quanto la Fiat che vuole. No, i tempi bisogna spegnere. Siamo di Radio Onda Rossa di Roma, vogliamo sapere che cosa sta succedendo qua. No, che cosa, ti volevano spegnere le trattative all'incotto, ti fa sbloccare le trattative e noi siamo contro sulle trattative. Bisogna continuare nella lotta e spegnere i tempi proprio sulla lotta. Dobbiamo lottare duro adesso, proprio duro dobbiamo essere, duro. Dobbiamo bloccare tutto, ma dobbiamo lottare. Cosa vuole fare il sindacato all'incontro? Volevano sbloccare, volevano far fare, cioè sulla tattica un'ora e due ore al giorno, così noi non otteniamo mai un cazzo. La gente dentro è ferma, bloccata, la via. Noi qua ci dobbiamo decidere una cosa, che noi qua dobbiamo essere duri, attaccarlo il padrone, attaccarli in giorni devono trattare, ma pochi devono trattare. Non devono le trattative essere 15-20 giorni, che quasi arriva alla fine di settembre, ti rompono le trattative, ce lo prendiamo nel culo noi operai, noi a noi arrivano i licenziamenti, non ai sindacalisti, noi siamo quelli che lottiamo in fabbrica e dobbiamo essere noi a decidere se bloccare la fabbrica oppure di no. Loro devono trattare, però devono trattare in un modo, è giusto democraticamente, però in un modo che devono anche ascoltare la classe operaia. Poi ci sono convocato lo sciopero di 4 ore. Di 4 ore, però noi abbiamo prolungato di 2 ore. Scusa un attimo, il discorso è questo qui, noi adesso qui dobbiamo fare anche interesse fra di noi stessi. Sì. Scusa un attimo, prima hai parlato. Il discorso è soltanto questo qui. Noi stiamo facendo questo termine di lotta qui, perché abbiamo visto che occupando la fabbrica, non facendo quell'ora al mattino e quell'ora a fine turno, qui rimanevamo soltanto i rappresentanti delegati davanti alle porte. Non è di questo che gli operai non ci stanno, gli operai stanno lo show, fanno i cortei, però vedendo che la fabbrica è bloccata, ognuno se ne va a casa, il discorso adesso noi ti stiamo facendo, questa ora prima, questa ora dopo, per mantenere la lotta, noi spendere la lotta. Noi non vogliamo che all'ingotto noi andiamo a sbloccare. Noi vogliamo, perché all'ingotto, noi facciamo produzione all'ingotto, devono portare qui là dentro, se no qui ci metteranno sempre senza lavoro. Il discorso è questo. Va bene, noi la merce vita la blocchiamo, però vogliamo che da lì all'ingotto arriva la merce qui, se no noi quella non lavoriamo più. Diciamo il padrone domani o domani ci manderà a casa, ci metterà senza lavoro, il discorso è questo, e noi che bisogna lottiamo, e che già il padrone mi manda a casa. E scusa, vuoi lottare con un'ora al giorno tu? Non è che io lotto un'ora al giorno, noi qui stiamo lottando 5 ore, non un'ora al giorno, facciamo un'ora al giorno del lavoro. E quando arriva l'ora, e quando arriva ottobre che incominciano a volare le lettere? Ma non arriva niente, perché guarda la lotta, è sempre qui, e se si rompono le trattative? Se si rompono le trattative, poi è proprio. Ah, perché allora tu deve bloccare la fabbrica quando si rompono le trattative. Ma ancora sono in piedi, ancora sono in piedi. Prima diciamo discutendo. È ragionare. Perché se te metti 8 ore di sciopero in una giornata, però qua stiamo a vedere che viene qua. Si prende la borsa di 9 e se ne va via. È andata via, sono arrivato alle 8:20. Va bene, sono arrivato in ritardo stamattina, potevo stare a casa benissimamente. Una settimana di muto. Io sono venuto con la macchina, la Pinerolo qua, in ritardo, perciò ho perso il giorno stamattina. Io questi giorni sono venuto a lavorare a una cassa integrazione e ci ha messo senza lavoro. Vabbè, sono venuto a lavorare, però ci ho rimesso la cassa integrazione della giornata, più la benzina della macchina. Allora qui, o andiamo avanti una volta per sempre, decisi, o se no, o si blocca tutto. Dobbiamo dire? Noi della Delta abbiamo già 45 ore di sciopero, se non di più. Quindi anche per i nostri problemi delle cariche di lavoro che abbiamo e stiamo discutendo, ma non ci riusciamo in nessun modo, siamo come schiavi in linea. Quindi oltre a queste ore che abbiamo perso già tutti quanti in collettiva, noi stiamo perdendo altre ore, abbiamo perduto altre ore solo per la linea Delta, per noi, capisci? Ecco perché, quindi no, non fa niente, un'ora in più, un'ora in meno, quello che significa, va avanti così. Però dobbiamo fare, che la gente deve stare qua, che dobbiamo lottare. Come fai? Perché se te gli dai 8 ore di sciopero in una giornata, quella viene qua e se ne va di nuovo a casa. Ha capito? E non è una lotta da portare avanti. Ci restano qua, se no se ne vanno a casa, se ne vanno a casa. Se ma la gente che è andata via adesso come la giustifica adesso quel lavoro che è andata via? Ah, noi non ci interessa. Ah, no, ti posso dare ragione, Però devi capire una cosa, ormai sono 4 giorni che stanno. Devi capire il mio discorso. Ma l'abbiamo visto anche nel contratto nazionale del 79, di cosa abbiamo fatto la blocca. Cosa abbiamo fatto? Siamo rimasti giorno e notte soltanto. Sei mesi nel trattato. E poi prima di andare in ferie hanno trattato. E modo di trattare dopo 6 mesi. Ma secondo te sento un po'. L'operaio che fa il picchetto, vede entrare la roba in un cancello e la vede uscire in un'altra porta, si ferma là a fare il buffone. Ma scusa, la mia roba. Tu chiami buffone chi fa il blocco delle merda. Lui chiama buffone. Prima cosa segue il discorso. Che lo sto seguendo. Qua abbiamo detto che questa deve essere una lotta più dura possibile. E allora le forme di lotta le scegliamo noi. Gli operai. Io sono un operaio, non sono mica un patatero. Sono dentro in fabbrica, no? E allora io ti dico questo. Se la gente ci tiene a lottare sul posto di lavoro, e non è solo il posto di lavoro, ma ci sono anche altre cose da lottare. Se noi scegliamo delle forme di lotta perché la gente stia in fabbrica, e perché lo scegliamo? Se la gente. Ma se vuoi continuare, nessuno glielo impedisce di continuare le lotte. Però la gente deve stare in fabbrica se vuole continuare. Stai in fabbrica! Stamattina abbiamo fatto un'ora di lavoro. E fare 6 ore di sciopero. Però noi in 6 ore di sciopero facciamo uscire alla via la produzione. No, ma che niente, ma che cosa ti è? Dico da loro ancora giorno. 20 macchine ti ho fatto. Ma scusa una roba. L'obiettivo è di fare le lotte. Ma scusa, vieni un po' qua. Te dice 2 ore, esce la produzione. Per me allora vuol dire che l'operaio alla Fiat lavora solo 2 ore al giorno. Perché le altre 6 ore sta facendo. Non conta, però per me con 2 ore esce lo stesso. No, non esce un cazzo, stai tranquillo. Allora io ti dico, se te l'importanza è che la gente venga o non venga a lavorare. Vuoi che si faccia. Vuoi che la fabbrica sia soltanto presidiata dai delegati? La preoccupazione è un'altra. No. Questo quindi comporta, come tutti quanti avete capito, a 2 linee ben precise, come avevo detto all'inizio. E allora si tratta da capire fino in fondo. La seconda linea dice. Noi lo dimostriamo, tutti quanti uniti, dimostriamo di essere decisi, dimostriamo che sappiamo prendere di petto con la lotta queste azioni. Oppure l'altra linea che dice ci sono 25 giorni, sarà lunga, facciamo 2 ore, 3 ore, 1 ora per tenere, per dire si fa sciopero, c'è il problema del licenziamento. Togliati Birillo. Secondo me. Poi vediamo della maggioranza, se dice le facciamo tutte 8, per me ci sono anche. Compagni, noi dello stampaggio siamo d'accordo a scioperare per 8 ore. Oppure mettere l'ora d'inizio e poi continuare la lotta tutti assieme. Ecco, stiamo alla Fiat Aviazione, con lo stabilimento che sta vicino a Fiat Lingotto. C'è un'assemblea questa mattina davanti ai cancelli, oggi giovedì, in cui sta decidendo se prolungare le 3 ore di sciopero convocate dal sindacato per 8 ore oppure mantenere le 3 ore di sciopero. Ecco, su questa questione, è una questione che si discute molto tra gli operai in questi giorni a Torino, proprio sulle forme di sciopero. La maggior parte degli stabilimenti ha ormai deciso da giovedì di fare 8 ore, anche se il sindacato ogni mattina convoca degli scioperi di 3 ore, 2 ore dentro i turni di lavoro. E quindi, diciamo, i picchetti di fronte alle fabbriche, poi anche questa mattina qui davanti a questo cancello appunto stanno decidendo collettivamente, reparto per reparto, se lo sciopero sarà di 8 ore o di 3 ore. Il compagno, così, che è arrivato in questo momento, sta dando la sua, il parere. Il compagno diceva che secondo lui bisogna proseguire con l'articolazione facendo 2 o 3 ore al giorno con lo stesso sistema di lotta, e questa è un'altra proposta. Adesso aspettiamo altre indicazioni dall'assemblea, perché è giusto che le assemblee decidano il da farsi, per evitare che domani mattina davanti ai cancelli ci siano dei momenti di attrito. Quindi, compagni, invito ancora una volta all'intervento a dire cosa ne pensiamo, in modo da decidere domani il da farsi e decidere anche oggi se smettiamo o andiamo avanti. Esatto. Quello dico io. Qua vicino ai cancelli 8 ore, come stanno gli altri operai fuori, anche noi. Giusto. No, che non siamo i più belli, quelli chi sono quegli altri operai? Gli operai di Lingotto sono 6 giorni che stanno fuori. E noi cosa siamo? E quanto durano? 8 ore al giorno fanno, per 24 ore. Quanto durano? Perché sono anche 10, 20 giorni stare fuori. Tutti che anche noi dobbiamo stare, perché è il settore che interessa quanto anche dura? A noi come se operai. E quanto dura? E là abbiamo bloccato. Però noi dobbiamo dire, federazione, ancora una cosa, che noi non stiamo facendo nessun sciopero di solidarietà. Noi stiamo lottando per il posto di lavoro, alla pari dei compagni della Lingotto, alla pari dei compagni di Mirafiori e della Lancia di Chivasso. Però torno a ripetere, visto che le decisioni li prendiamo noi, sulla nostra pelle, indipendentemente da quello che fanno a Roma, visto che a Roma le trattative continuano, ma non si sa cosa succede in quelle sede, perché nessuno fa sapere niente, le trattative continuano, dicono, e basta. Allora, dico, noi assemblea, operaia, oggi, adesso attacchiamo a lavorare o andiamo avanti? Andiamo avanti! Avanti! Per quanto... Tu vedi le ingotte che fanno 8 ore tutti i giorni, scusa. E noi perché dobbiamo... Però quanti... Scusate, prima di... Scusate un attimo. Prima di continuare, volevo solo dire... ultimi 2 punti, cioè, che sono molto importanti, che prima non sono stati detti e che è bene che tutti quanti si capisca. Allora, innanzitutto, quando io prima facevo quell'esempio dell'Officina 2 che mandano gli stampi fuori, ho parlato dell'indotto. L'indotto sono tutte quelle piccole officine, per esempio, che ci sono a Torino, sono quelle cosiddette boite. Allora, queste cose non le dico io, non le dice solo qualcuno, ma per ogni operaio che lavora alla Fiat ce n'è 5 che lavorano nell'indotto, cioè ci sono altri 5 operai che lavorano perché la Fiat gli fa le commesse e quindi sono direttamente collegati con questi operai. E proprio in questi giorni che su tutti i giornali anche sta uscendo un'altra notizia, la Fiat sta riducendo le ordinazioni all'indotto. Ora, non ci vuole un grande scienziato per capire cosa vuol dire questo. Vuol dire che per ogni operaio Fiat che viene licenziato ce n'è minimo altri 3 dell'indotto che vengono matematicamente licenziati. Quindi volevo dire anche un'altra cosa, oltre a quelli dividere quello che fanno là, quello che fanno là, non è la questione del numero, non è 14.000, certo, non è 15.000, non è 30.000, non è 40.000, ma è l'obiettivo politico del licenziamento, perché voi sapete benissimo che tutta la stampa, la RAI hanno continuato a dire in Italia quando si licenzia un operaio sembra quasi che succeda la fine del mondo. È proprio questo, il padrone si vuole prendere la libertà di licenziare unicamente secondo la sua strategia padronale. Questo era il primo punto che volevo dire. Poi un altro secondo punto che deve essere ben chiarito come noi operai della Fiat Avio, perché purtroppo, anche se molti non l'hanno ben capito, purtroppo dico, noi siamo importanti semplicemente per un motivo, perché oggi la Fiat Avio, proprio perché l'80% della sua produzione è produzione degli armamenti aerei da guerra, proprio perché la sua produzione l'80% va dall'estero, oggi il mercato tira, perché oggi i padroni stanno investendo nelle armi, perché oggi i padroni vogliono portarci ad una guerra, e quindi tutte quelle fabbriche collegate che lavorano per gli armamenti sono in attivo. Allora, secondo un minimo ragionamento, come operai, anche come strategia, al di là delle forme di lotta, noi dobbiamo tra di noi capire se questo ragionamento può o non essere valido. Nel momento in cui il padrone attacca, dov'è che subisce maggiormente e dov'è che può essere attaccato, deve essere attaccato più di forza. Secondo me il padrone può e deve essere attaccato più di forza dove lui è forte. Cioè oggi noi della Fiat Avio fare 8 ore alla Fiat Avio è diverso che fare 8 ore all'Ingotto, è diverso che fare 8 ore a Mirafiori, per una semplice ragione. Perché perdono delle ordinazioni importanti, perde più soldi qui che non all'Ingotto, che non all'auto che lui oggi dice che è in crisi. Ed allora adesso comincia la tavola rotonda, insomma la discussione che avevamo pensato, quindi io chiamerei sul palco Alfonso Natella, Ascanio Celestini, Tano D'Amico, Daniele dei lavoratori delle pulizie della Sapienza, non saranno con noi Vilma Labbate e Roberto Giannarelli per sopravvenuti impegni e quindi vi invitiamo a salire e cominciamo a parlare. Allora, io la prima domanda che volevamo fare è proprio dedicata a Alfonso. Abbiamo visto un po' una parabola, diciamo, dal 62 all'80, no? Come è cambiata anche la narrazione di quelle storie operaie e come è cambiato anche il linguaggio che gli operai avevano. E come sei cambiato anche tu, probabilmente, visto che hai attraversato quegli anni e hai continuato anche dopo. Volevo chiederti, questa parola così forte che è vogliamo tutto, no? Che sarà poi raccolta anche da Balestrini nel romanzo omonimo, che cosa voleva dire per voi anche rompere con una generazione precedente e dire noi ci riprendiamo tutto ma andiamo anche oltre, noi vogliamo le 40 ore, vogliamo le ferie pagate, vogliamo molto di più di quello che ci è stato concesso finora? In effetti la parola è molto semplice, Si sa benissimo, ormai non è che si sa benissimo, una volta si sapeva benissimo che nelle trattative sindacali, nei contratti di lavoro, nelle piattaforme di lotto, come si chiamavano una volta, c'era vogliamo 80 lire d'aumento, 25 lire, vogliamo due giorni di ferie in più, una settimana, no? Allora vogliamo tutto, era proprio, dice, ma noi vogliamo tutta cosa, va fanculo, chi cazzo sei, c'era... L'autonomia è riuscita come a te e meglio te, io, tu senza di me non cambi, io senza di te cambio meglio, cioè questa era la sintesi di vogliamo tutto, non c'era nessuna dietrologia, questo è tutto. È semplice. È molto semplice, dici. E, invece per Tano, un'altra domanda, poi tanto rinterverremo tutti, quindi anche delle domande penso dal pubblico. Sempre riguardante anche la narrazione, no? Tu hai scelto anche di, attraverso la fotografia, di raccontare anche dall'interno le lotte e di raccontarle molto da vicino, prendendo lo sguardo non dall'esterno ma stando in mezzo alle persone. Come è cambiato secondo te, come sono cambiate anche l'espressione degli operai in questi anni? Fino ad oggi anche, perché tu comunque continui a seguire con il tuo lavoro, anche con la tua passione anche politica, le battaglie che si fanno sul lavoro. Beh, insomma, io anche sentendo Giorgio in quell'introduzione bellissima che lui ha fatto, però sono rimasto un po' così, poco contento di questa cosa, perché c'è un rimosso nella nostra cultura. Un rimosso, qual è il rimosso? Cioè questa cosa di pensare che gli operai esistano così, sono nati. Perché? Perché alcuni di noi non nascono operai, altri sì. E bisogna vedere perché tutto ciò avviene, perché alcuni diventano operai e altri no. Allora io sempre, mentre parlava Giorgio, mi sono venuti un po' dei ricordi delle mie scuole elementari di tantissimo tempo fa. Io andavo a scuola negli anni 50 e ho perso tutti i miei primi della classe, il primo della classe delle elementari e il primo della classe delle medie, che sono andati a fare gli operai in fabbrica. E questa è una cosa triste, perché anche gli intellettuali e gli artisti che hanno parlato di questo tema hanno rimosso questo, e noi veniamo da una cultura antica, molto antica, che è quella greca, che è quella dei latini, quella degli antichi romani, e qui noi siamo sulla via Tiburtina che portava a Tivoli, e prima di arrivare a Tivoli c'era Villa Adriana. A Tivoli questa strada portava, per prendere le pietre, il travertino, dove tantissime persone, tantissimi schiavi, lavoravano lì. E c'era una villa bellissima, una villa di un imperatore che è celebrato tuttora, filosofo, Adriano. Adriano non voleva vedere gente che lavoravano. Quelli che lavoravano per lui avevano dei camminamenti nella sua villa che li rendevano invisibili. Non voleva, cioè lui voleva pensare che l'universo si inchinasse a lui e gli offrisse pranzo e cena. Non voleva vedere quelli che lavoravano per lui. Ecco, questo non volere vedere quelli che lavorano per tutti continua tuttora. Noi infatti, e bisogna dire, non abbiamo un bel film che parli della lotta. Non abbiamo Furore di John Ford. Forse perché noi siamo un popolo più classista degli altri, più classista dei russi, degli americani, dei francesi. E io facevo caso anche ai francesi. Hanno dei film in cui molto lievi, molto tenui, bellissimi come sono i francesi, in cui si parla di gruppi di amici. In questi gruppi c'è sempre qualcuno che lavora in fabbrica. Da noi no, nel nostro cinema, e mi spiace che manchi Vilma Labate, nel nostro cinema no. Ecco, queste cose, e anche noi non abbiamo, come ho detto prima, un bellissimo film che è furore, o un romanzo che è furore. Abbiamo Vogliamo tutto di Balestrini, però bisogna dire che Vogliamo tutto di Balestrini, quando è che l'ho letto, mi lasciò con l'amaro in bocca. E questo amaro diventò ancora più forte quando conobbi Alfonso. Ecco, in Vogliamo tutto c'è un operaio giovane che pensa solo a soldi e sesso e basta, a poche sfaccettature. E anche altri intellettuali che scrivevano su quelle riviste bellissime che ha citato Giorgio prima, anche altri intellettuali, per esempio ce n'è uno che, parlando degli operai, coniò questi termini bellissimi: rude razza pagana. Rude razza pagana. Ma un'altra razza, cioè gli operai e gli altri. Ecco, questo viene fuori da un rimosso. Io negli anni 50, questo non negli anni 50, nei primi anni del 60, nei miei lontani anni dell'università, ho letto tutto quello che i romani e i greci hanno scritto sul lavoro, e in particolare sugli schiavi che lavoravano loro con le mani. E allora si percepiva che la cultura era fatta in modo per mantenere alcuni in un ruolo, altri in un altro ruolo. E quello che mi spiace è che la nostra anche è fatta in modo che non lascia grandezza, dignità, bellezza a chi lavora con le mani. Deve essere sempre un altro a fargliela. Citavi Alfonso proprio perché ha ispirato, diciamo, il romanzo di Balestrini, e quindi chiaramente persona nella realtà molto fine, molto ricco di grandissimi sentimenti, non è una persona appiattita un po' in una macchietta come nel romanzo di Balestrini. Ma ti ringrazio di questa osservazione, perché in realtà forse ci permette anche di avvicinarci ad oggi, no? Di fare un po' un salto. Non so se sia corretto a livello storiografico, insomma, paragonare due epoche diverse, però penso che ci sia anche, tu dicevi appunto, si individuano gli operai come qualcosa che sia altro, no? Che sia qualcosa di lontano, che va... Chiaramente vengono descritti come qualcosa che non esiste, che bisogna tirare fuori. Però c'è in realtà, forse ancora oggi, sono pochissimi gli esempi che possiamo, forse appunto Vilma è uno di questi, di personaggi, esponenti della cultura, che invece scelgono di andare a cercare, no, quello che si sta muovendo. E forse perché, come dicevamo prima, oggi è anche difficile capire dove sta, no, questa classe operaia, che cosa produce e che cosa è in grado anche di mettere in campo rispetto a quelle che sono le battaglie più generali. Forse possiamo parlare di tante vertenze che tra loro magari non si parlano, possiamo parlare di arretramento, possiamo usare tantissimi termini, però è vero che manca quella capacità proprio di diventare protagonisti, di esserlo veramente. Mi viene in mente che in una delle tante battaglie che abbiamo seguito anche come radio in questi anni c'era quella degli invisibili di Eutelia, no? Che avevano scelto proprio delle maschere, quasi a dire: noi siamo talmente invisibili che decidiamo pure di non metterci neanche la faccia, no? In quello che facciamo. Ed era un modo anche per rappresentarsi di fronte a un'opinione pubblica, un mondo mediatico che non li stava ascoltando. Quindi chiedo invece ad Ascanio, visto che lui... appunto insieme a pochi altri ha scelto di raccontare in particolare una vertenza che è quella di Atesia, che tra l'altro appunto ha avuto anche una grossa vittoria, insomma, in termini quantomeno di lotta e di capacità di essere riproducibile probabilmente, intanto perché hai scelto, insomma, di avvicinarti a quella battaglia, e poi che cosa ne hai ricavato anche in termini proprio di narrazione tua come regista, no? Come persona che di solito, insomma, fa altro, anche se lo fa molto vicino a noi in qualche modo. Beh, perché ho parlato della tesi? Perché perché quelli del collettivo Precariatesia sono venuti da me e mi hanno detto: perché non vieni da noi a fare uno spettacolo di sottoscrizione? E ci abbiamo un po', ci ho un po' provato, nel senso che questo incontro c'è stato, se non sbaglio, verso ottobre, era difficile trovare un posto. Dopo un po', dopo due, tre, quattro incontri, in realtà io ho incominciato a fare interviste a loro, perché ero interessato al modo, ai termini proprio, alle relazioni sul posto del lavoro, perché negli anni precedenti mi ero invece rivolto soprattutto a lavoratori che avevano lavorato negli anni 40, 50, massimo anni 60. Ho fatto interviste con i braccianti emiliani, con i minatori del Valdarno, de Perticara nelle Marche, con tante altre persone che però raccontavano di un lavoro che in buona parte non c'è più. Che parlavano pure del cottimo, che comunque si faceva in Atesia e si fa in molti altri posti ancora oggi, magari utilizzando termini diversi. Però erano lavoratori che vivevano in maniera davvero tanto differente la propria relazione con il lavoro che stavano facendo. E per cui ero interessato io, più che altro, erano loro interessati magari ad un po' più di visibilità, forse, magari a qualche spettacolo di sottoscrizione. Poi invece è nata una piccola relazione che ha portato prima ad un laboratorio a Cinecittà, peraltro, non a Cinecittà, cioè in realtà alla scuola di cinema che sta davanti, per cui c'era questo strano passaggio dal call center Atesia, che sta in una parte di questo non so, insomma, vomitevole agglomerato di cemento e ferro che mette insieme una serie di palazzine e anche il centro commerciale, la parte più visibile, Cinecittà 2, e dall'altra parte di questo centro commerciale, queste palazzine, anche Atesia, c'era invece la scuola di cinema, dove mediamente quelli che la frequentavano erano persone che appartenevano a famiglie benestanti, per fortuna per loro, insomma, non è mica una colpa essere figli di uno che sta bene. E quindi c'era questo strano passaggio del lavoratore precario, che spesso aveva anche 30, 40 anni, anche 50, che andava a raccontare le proprie storie, le proprie vicende a degli studenti che studiavano cinema e che non conoscevano, alcuni sì, però solo una piccola parte conosceva in maniera diretta o quasi diretta questa maniera di lavorare. Da qui poi è nato, vabbè, insomma, una trasmissione alla radio e un documentario. Però ho preso appunti, insomma, in tutto questo dibattito, quindi ci vorrei due ore, cioè un intervento lunghissimo, compagni, però non lo faccio. E è interessantissima questa cosa che ha detto Tano su cinema, sul cinema, sulla letteratura, che anche quando si interessa del lavoratore lo fa sempre in maniera classista, cioè questo è il film sugli operai, questo è il film sui contadini, questo è il film magari sui padroni, cioè, però non c'è mai un film, non c'è mai, comunque è difficile trovarlo, un film, un romanzo, un'opera letteraria, diciamo un prodotto culturale che in qualche maniera crei delle relazioni, che non li pensi solamente chiusi nel loro strato, nella loro classe sociale. Mentre invece quello che accade nelle battaglie di questi ultimi anni, nelle lotte di questi ultimi anni, persino Atesia, Atesia un po' meno, però soprattutto nelle lotte territoriali, è che invece lì c'è, non leggiamo questa differenza. Noi troviamo, adesso è stata prima citata la Val di Susa, ma lì, vabbè, è una storia che dura più di 20 anni, ma anche prima c'era un amico di Riano, a Riano il presidio c'è da gennaio più o meno, credo, insomma, gennaio-febbraio, da quando ha nevicato, insomma, stanno lì perché sotto la neve, e anche lì trovi l'operaio, il contadino che ha messo a disposizione un pezzo della sua terra per uno dei due presidi, e però c'è pure la maestra in pensione, c'è lo studente, lì addirittura ci stanno gli anarchici e ci stanno pure quelli di Casa Pound, e comunque stanno lì perché c'è, stanno a 200 metri, per cui ogni tanto ce vanno, no? E c'è invece molta più confusione rispetto alle prospettive ideologiche, alla visione ideologica che può avere un film bellissimo come quello, come La classe operaia va in paradiso, dove però noi vediamo gli operai e non vediamo tutto quello che sta attorno. E poi questo qui poi mi viene in mente un'altra cosa, ed era quello che invece diceva che mi disse in un'intervista a Sisto 40, che è uno dei deportati al rastrellamento del Quadraro del 44, che quando io gli dissi ma perché non avete mai parlato di questo rastrellamento, perché se ne è parlato solamente in questi ultimi anni? In questi ultimi anni poi quella lì è quella memoria che diventa tristemente retorica, no? Per cui dobbiamo parlare del passato, perché sennò queste tragedie torneremo a rivivere, sono tre cazzate ovviamente, no? Perché noi ce le torniamo a rivivere pure se ne parliamo. Io mi ricordo nel Ruanda, prima che iniziasse il genocidio vero e proprio, prima dell'aprile del 94, c'erano tra gli Hutu, quelli che poi sterminarono un milione di Tutsi, si diceva che i Tutsi stavano organizzando un genocidio nazista sull'esempio di quello di Hitler, che avevano anche adottato la svastica. Lì proprio il lavoro sulla memoria serviva per poi farlo un genocidio, no? E io chiedevo a Sisto, dico: Sisto, ma perché voi non avete parlato fino adesso? E lui mi dice: come non ho parlato? Non ho parlato, solo che ne parlavo io sono elettricista, elettrauto. Tra di noi non ci stavano i registi, i poeti, dice Sisto, no? E anche questo è interessante, quella mancanza di visione, non dico complessiva, ma almeno non completamente ristretta, nasce da una mancanza di visione nella società, nella realtà, nasce già da là, non soltanto, non è un problema esclusivamente letterario, culturale, è proprio reale, e oggi è peggio di prima, per certi versi, soprattutto nelle città, ed è per questo che nelle città si fa tanta fatica a portare avanti delle battaglie, perché nella borgata dove vivo io cioè non ci sono i registi, non ci sono i teatri, sono io l'unico forse che fa teatro quasi, per cui, mentre magari al centro di Roma c'è il figlio del magistrato che va a scuola col figlio del senatore del PD, che però sta insieme al figlio dell'avvocato d'estrema destra, e magari sta anche insieme al figlio dell'anarchico che fa il chirurgo. E quindi lì, capito, la classe dirigente combacia perfettamente con la classe dominante. Invece in situazioni di lotte territoriali, come possono essere quelle di Vicenza o anche quella di Riano, come possono essere state quelle di Chiaiano, piuttosto che vabbè, insomma, quelle dei Notav, c'è ancora una mescolanza, insomma. E lì il chirurgo deve per forza vicino alle case, forse pure di un baraccato. A questo punto io, se siamo d'accordo, darei anche la parola a Daniele, che viene dall'università, che però non viene qui in quanto studente ma in quanto lavoratore all'interno dell'università, che ci può anche raccontare com'è incontrare il mondo della cultura dal punto di vista di un lavoratore, e soprattutto la battaglia che voi avete portato avanti, la lotta che noi come radio abbiamo raccontato, ma che ci fa piacere oggi che tu la racconti a tutti. Sì, appunto, io sono un operaio della Sapienza e vengo qui, insomma, non tanto per raccontare la cronologia di una lotta che si sta svolgendo da alcuni mesi all'interno della Sapienza, quanto per portare il significato poi che ha portato questo tipo di esperienza. Noi ci definiamo dei lavoratori appaltati, e quest'anno siamo stati appaltati a due ditte del nord che ci hanno, diciamo, acquisito con un forte ribasso, e questo forte ribasso chiaramente loro sin dall'inizio hanno cercato di farlo ricadere su di noi, insomma, un ribasso che parliamo di un terzo rispetto a quello di prima. Non perché prima, assolutamente, con l'azienda che avevamo prima i problemi erano meno, ma adesso chiaramente sono molto più accentuati. Sin da subito, subito pochi mesi, io e le mie colleghe, i miei colleghi abbiamo cominciato a riprendere parola appunto su ciò che erano i nostri interessi, insomma. In contingenza di questo abbiamo cominciato un percorso di lotta che è nato dal basso, appunto, perché noi siamo in un posto di lavoro dove da 20-25 anni ci sono i sindacati confederali che in tutto questo tempo e oggi più che mai tramite appunto la pratica della delega non hanno fatto altro che portare gli interessi loro e quelli appunto delle aziende amiche, perché poi sappiamo bene che quando c'è una gara d'appalto gli interessi sono tanti e entrano aziende di diverso colore politico, quindi comunque poi i sindacati si rapportano di volta in volta con questo tipo di situazione. Noi da ottobre abbiamo cominciato a discutere, è nata un'assemblea tra studenti e appunto e studentesse e lavoratori e lavoratrici, che è un'esperienza che un po', riguardando anche i video che c'erano prima, riporta pure un po' indietro nel tempo. Invece per noi è diventata l'attualità, è diventato lo strumento per gli operai e le operaie per esprimersi, per riprendere parola, per riprendere coscienza sia delle proprie condizioni di sfruttamento, ma anche appunto della propria forza rispetto a quello che poi uno deve cercare di ottenere. Abbiamo prodotto sit-in, abbiamo prodotto momenti di comunicazione con l'università, siamo riusciti dopo pochi mesi, indicendo 2 giorni di sciopero che poi abbiamo revocato, perché appunto siamo riusciti a far, attraverso appunto la costruzione di questi rapporti di forza, a far retrocedere l'azienda rispetto a ciò che ci aspettava, che poi non è altro che un misero contratto di multiservizi, che stiamo parlando di stipendi di 300-400 euro al mese, insomma di stipendi miseri. E chiaramente il tentativo dell'azienda e appunto dell'università di far ricadere comunque questo ribasso di noi, cercando di tagliare il personale, si è rimanifestato di nuovo, e noi comunque abbiamo ricominciato come avevamo cominciato all'inizio col nostro percorso di mobilitazioni. E in tutto questo tempo siamo riusciti a far ricompattare una situazione lavorativa che era iperframmentata appunto per il numero di sindacati che vi erano presenti, che non hanno solo diviso i lavoratori fino ad oggi e hanno fatto chiaramente pompieraggio sociale. Oggi il 6 e 7 giugno abbiamo rindetto 2 giornate di sciopero, appunto perché le aziende in questo tentativo di sfoltimento hanno chiesto la cassa integrazione e la mobilità, e questo per noi chiaramente risultava comunque inaccettabile, e il 6 e 7 lo sciopero è stato realizzato, e 2 giornate di sciopero che comunque per quanto riguarda poi le condizioni economiche attuali, insomma, è difficilmente realizzabile, invece noi ci siamo riusciti anche con un'ampia adesione. Questo ha portato alla situazione che oggi i sindacati confederali non rappresentano più nulla, e che oggi con la ripresa della lotta organizzata io e i miei colleghi riusciamo ad avere un ruolo primario, un ruolo insomma da protagonisti insomma rispetto a questo, e abbiamo maturato anche l'esigenza di superare anche la logica degli appalti, che è quello che poi genera lo sfruttamento all'interno dell'università. Infatti per noi questa non è una mera lotta sindacale per riottenere dei diritti, anche perché diciamo, come dicevo prima, il nostro contatto è talmente misero che c'è veramente poco da ottenere, è una lotta per superare appunto la logica mafiosa e clientelare che genera gli appalti fra i sindacati, le aziende, l'università della Sapienza. Abbiamo chiesto l'internalizzazione, in tutti questi mesi abbiamo visto la grande solidarietà che c'è stata comunque intorno a noi, attraverso chiaramente la radio, ma attraverso anche altri collettivi dei lavoratori con cui abbiamo costruito un'assemblea per l'auto-organizzazione, che è un momento di confronto anche con le realtà lavorative. Il fatto che nelle nostre 2 giornate di sciopero i lavoratori di Aci Informatica abbiano scioperato insieme a noi ci ha dato grande forza. Il fatto che comunque prima di noi i lavoratori del Sant'Andrea hanno ottenuto quello che oggi stiamo cercando di ottenere noi, quindi l'internalizzazione di un servizio, quindi oggi parlano tanto di sprechi di denaro e vengono affidati a una gestione alle ditte private, milioni di euro che passano per queste ditte private, che poi alla fine con la scusa dell'appalto si intascano un sacco di soldi. Quindi insomma per noi è un po' tornare indietro nel tempo vedendo questi filmati che c'erano prima, ma un po' poi stare nell'attualità, anche perché le stesse medesime condizioni che c'erano tantissimi anni fa si ripropongono oggi con i carichi di lavoro, con i licenziamenti, con l'attacco che comunque quotidianamente sia sul privato ma anche sul pubblico vengono portati a tutti e a tutte. Volevo aggiungere altre cose, perché la domanda che mi ha fatto prima era molto secca: che significa vogliamo tutto? È inutile che mi prolungavo molto, l'ho spiegato brevemente. Però abbiamo, non dico il compito obbligatorio, uno può pure sbagliare il compito agli esami, ci stanno tante bocciate, ci bocciano pure a noi. E dunque, il compito è di capire se c'è o non c'è la classe operaia. È una cosa difficile. Io non mi azzardo a dire che non c'è, perché sennò mi pigliano per traditore, per piccolo borghese, eccetera, eccetera. Quindi no, faccio l'andreottiano, cioè non lo dico se c'è o non c'è. Diciamo che non ci vedo bene. E quindi le cose stanno così. Negli anni scorsi, negli anni quando io ero ragazzo, gli operai e i braccianti agricoli, i contadini, i scarpari, i falegnami erano visibili. Avevano un modo di ragionare e anche se erano persone umili che facevano una vita faticosa e ci avevano le pezze al culo, avevano, non lo so per quale tradizione, ma era una tradizione europea, forse mondiale, avevano la questione della dignità. Cioè quando queste persone, ma pure per gli extracomunitari è così, quando queste persone vengono toccate in un limite che finisce la loro vita, che è basata sull'orgoglio, sul sentirsi uomini, e cedono, e dice, mo da cica proprio, cioè basta, cioè qua non si passa. Cioè evidentemente le generazioni precedenti alla vostra, non lo so, o la vostra, l'età, avevano questo input di cinema culturale, cioè l'onore significa che tu non devi aver paura di vivere, puoi vivere male, puoi vivere, mangi male, dormi male, per tante altre cose, vesti male, però nessuno ti può mettere sotto, no? C'era questa cosa, non lo so se c'era nell'Ottocento, ma mi pare che il rivolte che facevano c'era pure nell'Ottocento, pure nel Medioevo, in qualche modo c'è stata sempre, perché il rivolte c'è sempre stato, insomma. Io non è che sono Matusalemme, io posso sapere le cose che ho visto io. Quindi che succede nelle nuove generazioni? Già che ci hanno raccontato che noi abbiamo dei diritti, se dice i miei diritti, non dire che ci ingazziamo, a noi nessuno c'ha la fritta dei miei diritti. Mio padre, i padri dei miei amici dicevano, state accorti alla polizia, state accorti ai padroni, non è che ci dicevano tutti nell'articolo 1, l'articolo 4, non si dicevano state accorti che vai in galera, non ti fa fesse, cioè ci davano dei consigli, no? E quindi quello era, i consigli si vedevano poi quando succedevano queste cose, uno si stava accorto finché ne valeva la pena di starsi accorto, poi quando non ne valeva la pena dice ma vaffanculo e scattava. Ora invece i guaglioni non si stanno accorti, i figli nostri, perché c'è stato detto dalla televisione, c'è stato detto da Pannella, c'è stato detto dal PDS, dal PD, eccetera eccetera, che noi abbiamo dei diritti. Allora ci abbiamo dei diritti, stiamo a posto. Ma non ne trovano più, dice, non stanno i diritti, ma come, che li cafuni ne tenevano i diritti e noi non ne teniamo, chi mi dà l'università e non ne tiene, perché non ne ha mai tenuto. L'articolo 1 della Costituzione hanno fatto fuori 48 a Portello delle Ginesi, che te sul lavoro proprio fucilato, cioè noi hanno ruotato tutto quanto a mezzo gli articoli della Costituzione, c'è rimasto sulla Costituzione, poi giustifica il Parlamento e poi giustifica i stipendi che appiglia. C'è pure chi? C'è pure chi parla di lavoro bene comune oggi, quindi è... Essere una fatica tutto quanto però per essere un bene comune, soprattutto quelli che lo dicono. Infatti prima in uno spezzone che abbiamo visto c'erano giustamente gli operai che dicevano ma noi perdiamo le giornate di lavoro quando scioperiamo, le perdessero loro i sindacalisti che fanno come dire, che ci dicono di stare tranquilli, di stare calmi, di non continuare insomma a scioperare, andare avanti con la lotta. Io non so se ci sono anche, io purtroppo vedo malissimo con questi faretti. Non ho risposto però alla domanda. E allora infatti rispondi. Se sono cambiati gli operai, gli atteggiamenti, i volti, eccetera, esistono dei volti che non cambiano mai, degli atteggiamenti che non cambiano mai, e altri che cambiano forma, ma una radice comune, un lampo negli occhi, qualcosa così, ecco, che continua, c'è sempre. E vorrei dire anche sull'immagine, com'è che noi abbiamo visto sempre le persone che lavorano con le mani? E allora se noi andiamo a vedere quei giornali appesi, quei giornali affissi, si leggono anche delle parole orribili, no? Si dà del fascista e si vedono anche delle immagini orribili. Se io e altri abbiamo fatto i fotografi, abbiamo scelto il lavoro che abbiamo scelto, è perché eravamo insoddisfatti delle immagini che già c'erano. E qui apriamo un discorso amaro anche sull'oggi. Abbiamo scelto, ma perché questo? Quando si parla della memoria, per esempio, e io per parlare della memoria userei un esempio. La guerra di Troia, per esempio, per l'umanità è contata molto meno delle lotte della Fiat, che hanno cambiato la concezione dei diritti. L'Iliade e l'Odissea hanno saputo raccontare quella che è stata una delle tantissime guerre per il possesso di una piccola città, l'hanno saputa raccontare in modo che si insegna ai bambini tuttora, mentre non sono state raccontate quelle lotte della Fiat e delle altre fabbriche che hanno cambiato il modo di vedere, di concepire diritti, dignità, eccetera, che e sono state sotto i nostri occhi. Il teatro era assente, il cinema era assente. Ancora ora, quando io vedo, per esempio, quello che mi fa riflettere molto, che sono vecchio, e mi fa riflettere come cambia il riso, come cambia il pianto, come cambiano i volti, e racconterei questo fatto. Qualche anno fa sento per radio che sono morti in un incendio di un'antica fabbrica di olio che si chiamava Il Buco, che per gli immigrati era Il Buco, perché passavano da un buco e andavano a dormire lì. Qualcuno ha dato fuoco al buco e si sono salvati tutti tranne uno, che aveva, per un incidente che aveva avuto, difficoltà a correre, e allora non è potuto sopravvivere. E allora io sono arrivato e chiedevo a tutti: ma conoscete quello che è morto? E tutti quanti che mi dicevano no, ed erano rumeni, egiziani, erano neri, e erano tristi tutti, c'era un comune denominatore di tristezza, piangevano in un modo diverso, perché non c'erano dei gruppi, allora c'era una specie di cambio di pianto misto, perché il rumeno che veniva dal nord Europa piangeva insieme all'africano nero, piangeva insieme a quello che veniva dall'Egitto, e io dicevo tra me, sta cambiando il pianto. Ecco, nelle scuole di cinema, di teatro, insegnano ancora il pianto del teatro greco. È cambiato, ma il cinema non è che se n'è accorto. Qualche anno dopo uscì infatti un film fatto sugli immigrati, eccetera, in cui non c'erano questi nuovi pianti. Beh, com'è finita questa storia del ragazzo che è rimasto dentro? Sono arrivati quelli che si occupano dei morti, la polizia mortuaria si chiama, è arrivato con un'ambulanza che ha delle barelle di metallo, acciaio inox, cioè pronte a tutto. E quando uno di questi due signori è entrato dentro il buco, quell'altro signore metteva una barella, era lì che preparava una barella, ma quell'altro che era entrato dentro il buco esce per un attimo e gli fa un segnale con la mano, cioè come dire non occorre, e dopo un po' esce con un sacchetto dell'immondizia in mano. In questo sacchetto c'era quello che rimaneva. E allora tutti quei ragazzi a cui io avevo chiesto ma conoscete quel ragazzo che è rimasto bruciato, che mi avevano detto no, avevano negato, invece quando vedono il sacchetto con il loro amico si fanno tutti quanti avanti, si fanno tutti e aprono i loro occhi, spalancano i loro occhi come delle grandi padelle, come delle grandi finestre, un carabiniere che era lì per pietà, cioè per non far vedere l'amico dentro il sacchetto dell'immondizia, alza le braccia per coprire gli occhi e si alza in punta di piedi per coprire gli occhi di queste persone, in un gesto di grande pietà, bisogna dire. E loro che si alzano tutti quanti sulla punta dei piedi, ed è stato un rito funebre che non avevo visto mai, però c'è. E poi ne ho visto un altro. Cioè io facevo un lavoro in una città che è Torino, uno dei pochi lavori commissionati della mia vita, pagato bene, per le pagine gialle. E vivevo in un bellissimo albergo, non era grande, anzi era molto raccolto, molto bello nel centro storico. La mia maledizione, perché portavano anche i giornali. Ogni mattina io sentivo un fruscio, che mi alzo presto, aprivo la porta e c'erano già i giornali tutti. E lessi che avevano trovato un ragazzo, un cadavere del Nord Africa, cioè dai caratteri somatici, annegato nel Po con le manette ai polsi. Città Torino, città di fabbrica, con le manette ai polsi. Quindi allora io bisogna dire che lascio telefono, dico guardate oggi non potrei venire, sto male, cioè, e scappo lì sul Lungotevere, ho perso il lavoro, cioè non è che ho perso quello, non mi hanno chiamato più per farne altro. Allora, e lì anche sul Lungotevere ho visto un rito più forte. Ho visto un rito. Il Po. E ho visto un rito che non avevo visto mai. Avevo un rito, cioè ognuno dei compagni, degli amici, dei fratelli del ragazzo ucciso, di questo annegato, aveva un grande fiore bianco, e sono scesi tutti quanti insieme e i volti erano tutti quanti scuri, c'era un contrasto tra i volti e i fiori, grandi fiori, grandi quanto i volti. Sono scesi sul greto del Po e hanno gettato i fiori dentro il Po, e si vedeva la silhouette di questa città, la silhouette della Mole, dove c'è ora il museo del cinema, bellissimo, si vedeva. E io mi sono guardato intorno e non c'era il cinema e non c'era la nostra televisione, nemmeno le altre, come a dire. E poi cioè per raccontare certe cose bisogna vederle, e anche nelle lotte torinesi bisogna dire che non c'era nemmeno Vilma, a me spiace che lei manchi, che usa sempre dei filmati di repertorio, chi fa questi filmati di repertorio? È chiaro che li fanno quelli stessi che lavorano per i giornali, per la televisione, che non rendono mai, secondo me, un bel servizio agli operai, mai, mai, mai. Ma volevo finire con questa cosa, che l'unico, ecco, quando io parlavo, ho parlato un po' troppo male di tutto quanto il cinema, bisogna dire che il più aristocratico di tutti gli uomini che hanno fatto cinema nel nostro paese, mi sembra che fosse principe, duca, barone, Visconti, era Visconte, quindi era vescovo Conte, era tutto. E Visconti ha delle scene bellissime della pausa pranzo degli operai dell'Alfa Romeo, dove in Rocco e i suoi fratelli, che sono gli operai veri, che lui filma da grande maestro, con partecipazione, non come i filmati che noi vediamo per televisione, che spazzolano via tutti, no? Che spazzolano su questi volti, e lui invece indugia e fa vedere la grande dignità. Non avevano la mensa allora, in quegli anni, e mangiano fuori per terra, seduti per terra, e formano dei gruppetti e delle cose, e sono delle scene molto ma molto belle. E bisogna dire che per tutto Visconti aveva visto, ecco, per filmare quelle cose è chiaro che prima si era fermato per la strada, come anche quando io vedo Senso, di Visconti. E bisogna dire che io vedo dentro Senso di Visconti, quando racconta un po' prima della battaglia e un po' dopo della battaglia, cioè che si muovono le truppe, che si muovono le persone, i quadri di fattori e le foto che i miei colleghi hanno fatto nel luglio 60. Cioè io tante volte mi sono chiesto chi ha copiato chi, se i miei colleghi hanno copiato Visconti o se Visconti ha copiato, cioè gli stessi, quando si vede la cavalleria, esistono delle immagini bellissime in cui si vede la cavalleria con lo sfondo della piramide Cestia, queste cose, ecco, come dire che abbiamo avuto delle grandi immagini, abbiamo avuto dei grandi film, delle grandi immagini, e tutti si sono dimenticati di raccontare, come l'Iliade e l'Odissea, quello che ha cambiato la vita, quello che ha cambiato il mondo. Manca l'epica. Manca la poesia, ecco, questa per gli operai manca. È sintomatico che tu abbia scelto comunque di ricordare episodi molto tristi, anche raccontando le immagini che ti rimangono nella memoria. Non so, secondo me è abbastanza. Mi ha colpito molto, insomma, questa cosa. E io lascerei il microfono aperto a chi vuole intervenire dal pubblico, se ci sono domande, interventi, richieste alle persone che abbiamo qui. Ecco, aspetta che non. No, voglio dire due parole e chiedere magari qualcosa ad Alfonso, magari sollecitare anche la platea, anche magari sull'oggi, sull'attualità, dicendo però, ripartendo da Piazza Statuto, cioè molte cose chiaramente sono emerse anche dal reading di prima e molte altre le ha dette Giorgio nel suo intervento iniziale, no? Per cui appunto Piazza Statuto realmente è stato, insomma, un momento importante, un momento che ha segnato una svolta. Si è detto però anche che in tutta la fase precedente, insomma, c'è stata una grande difficoltà, l'hanno avuta anche i sindacati all'interno dei luoghi di lavoro per far ricominciare le lotte. Si è detto che nelle fabbriche c'era un dispotismo aziendale molto forte, che nei luoghi di lavoro c'era una vera e propria militarizzazione, si è fatto cenno ai reparti confino, alle perquisizioni, dall'inizio del secondo dopoguerra fino alla fine degli anni 60 ci sono circa 200.000 schedature in Fiat, ce lo racconta Bianca Guidetti Serra in un bel libro che si chiama proprio Le schedature Fiat. Quindi lottare, fare le lotte, insomma, è molto difficile, è molto complicato. Certamente, insomma, a cambiare le cose ci sono degli elementi soggettivi, anche prima di tutto questo rimescolamento delle carte all'interno della composizione operaia, no? Però credo che ci siano anche degli altri elementi. Cioè, Piazza Statuto, insomma, e la lotta che si riapre alla Fiat non è un episodio isolato, anzi ce ne stanno tanti altri che costellano proprio quegli anni, che magari sono stati anche un po' oscurati dalla grandezza, insomma, dal profondo significato che ebbe Piazza Statuto. C'è ad esempio una lotta molto importante che viene fatta proprio nello stesso periodo di Piazza Statuto, che è alla Piaggio di Pontedera. E alla Piaggio di Pontedera, ad esempio, non si lottava dal 1955, in un clima dispotico molto molto forte. Ci sono i rapporti prefettizi in cui il prefetto di Pisa scrive al ministro dell'interno e dice, insomma, era inaspettato questo rinizio delle lotte qui alla Piaggio, fermo restando il fatto che il clima, appunto, evidentemente richiedeva a quel punto un nuovo protagonismo da parte operaia, proprio perché i rapporti erano improntati alla ferrea disciplina. Tanto per dirne una, gli operai, proprio in quel 62 della Piaggio, la prima manifestazione che fanno la fanno coi fischietti, e viene vietato l'uso del fischietto, giusto per dire una piccola cosa, insomma. C'è una ripresa delle lotte in molti posti di lavoro, ma perché non c'è stata prima? E evidentemente questo possiamo anche rapportarlo all'oggi, insomma. Al di là degli elementi soggettivi, credo che ci sia una base materiale importante, cioè il fatto che viene meno il ricatto occupazionale. C'è quindi una politica di piena occupazione, chiaramente il periodo 62 dell'apogeo forse del miracolo. Non dobbiamo nemmeno pensare però che di lì in poi la strada è tutta in discesa per gli operai, perché nel 64, fra l'altro, viene anche sconfitta quella timida ipotesi riformista a livello di governo, insomma. La vertenza del 65-66 sarà una sonora sconfitta per gli operai, forse una vittoria di Pirro, qualcuno l'ha detto, a livello padronale, perché poi ci sarà l'autunno caldo, insomma. Però, ecco, gli operai a partire da quel momento non hanno più avuto paura di parlare, riprendersi la scena, diventare protagonisti, alzare la testa. E io credo che non abbiano più avuto paura, proprio perché è venuto meno questo ricatto occupazionale. Io vorrei appunto chiedere ad Alfonso la sua esperienza, nel senso che a quel punto davvero, insomma, non c'era paura di alzare la voce, anche perché magari si poteva essere licenziati e riassunti presso un altro posto di lavoro con estrema facilità. E questo dovrebbe, credo, farci pensare anche alle difficoltà in cui ci troviamo oggi. Cioè, oggi tanti compagni e compagne si chiedono come mai, insomma, a fronte di tutto quello che sta accadendo, non succede niente, non si muove una foglia, soprattutto all'interno dei luoghi di lavoro, se non che poi delle piccole piazze statuto ci sono anche oggi, insomma, perché poi l'abbiamo visto in questi ultimi tempi il riaffacciarsi di lotte, soprattutto con protagonisti migranti nella catena della grande distribuzione, insomma, le lotte al gigante, a Pioltello, a Milano, nell'Interland, ne sono una dimostrazione, insomma. Però ecco, oggi probabilmente c'è da sconfiggere questa questione, cioè il ricatto occupazionale, non tanto il ricatto occupazionale quanto il ricatto di perdere il posto di lavoro, insomma. E probabilmente riparlare quindi di lotta alla precarietà o di reddito, spesso tra i compagni queste due opzioni sono poste in maniera quasi agli antipodi, ma io penso, insomma, che se ne possa discutere per trovare obiettivi comuni. Quindi questo volevo chiedere alla sua esperienza da questo punto di vista, ad Alfonso soprattutto. Beh, questo è un dato di fatto, cioè almeno la mia generazione è la prima generazione che è andata alla scuola dell'obbligo, cioè nel mondo operaio, proletario, oppure fra i poveri, come dicono i cattolici, perché forse fra poco si deve parlare di poveri e non di proletari. Comunque, nel mondo dei poveri o nel mondo dei proletari o nel mondo operaio, cominciava a esserci più cultura borghese, cioè andare a scuola, pensare di essere superiore ai propri genitori, e se i propri genitori avevano avuto qualche timidezza verso le istituzioni, noi non le avevamo più perché avevamo andato a scuola, i nostri professori non facevano altro che dire voi sarete meglio dei vostri genitori, allora dice cazzo se li prendiamo mica ci dicevano che erano peggio, quindi li prendevamo in parola, sembra meglio, figurati, allora guadagniamo più e stiamo meglio. Cioè c'era un po' di illusione, c'era la televisione che faceva la pubblicità, ci hanno indotto a pensare che potevamo stare meglio, ci abbiamo creduto subito, no? E allora diciamo non ci sta, cioè quando avere i scarpi lussa, la motocicletta, il frigorifero, questo e che là, dice beh, e queste sono cose che già tenere pure, sennò che facciamo a fare? Quindi è stato, non sembrava più una cosa da scostumati, che riceviamo più assai, dammi più soldi, sembrava naturale, cioè quello che pensavo io lo pensavano tutti, cioè non è che io pensavo di essere rivoluzionario, me l'hanno detto i compagni che io ero rivoluzionario, io ero normale. Era normale, eravamo tutti così. Diceva tu si rivoluzionò, veramente. Ma io volevo quello che vedevo in giro, c'è sta la macchina, c'è sto frigorifero, voglio, c'è sta pure l'elicottero, volevo. Cioè, insomma, cioè, facevamo, noi ci pigliavamo. Cioè, era una generazione di giovani spoliticizzati, ma fino a un certo punto, perché poi le cose le sentivamo, non leggevamo i giornali, non frequentavamo sezioni di partito, almeno io, non è che posso fare testo generale, io può darsi che ero il più asino, ma diciamo, non, tutti quelli che conoscevo io, diciamo così, non frequentavano nessun partito, nessun movimento, quelli che conoscevo io, e però non è che non sapevamo che c'è stato Cuba, che c'è stato Vietnam, e comunque facevamo UDIF, chissà perché, sempre con questi qua e mai con quelli là, i nostri erano quegli altri, anche se non ce l'aveva detto nessuno. Si sentiva ricevere pandere nere, sparano i poliziotti, avranno le loro ragioni, cioè non, ma non solo io, era un'epidemia, una mentalità che era così, e forse era dovuto a quello che dici tu, cioè l'ottimismo dell'abbondanza, no? Dice che cazzo, tanto mangiamo lo stesso, c'è stata tanta roba in giro, gli hanno rubato, cosa la troviamo? Non è che c'era la penuria come nella guerra, che non trovava manca le cicorie perché già sapeva mangiare coccheruna, cioè, c'era da mangiare dappertutto, dice, mal che vada, ci andiamo al ristorante e mangiamo, cioè, non ce ne fotteva niente perché vedevamo l'abbondanza, dice, la guerra è alle spalle, poi ma mangiare, questo credevamo. Poi c'è man mano col tempo siamo arrivati a queste condizioni, però non è che si sia arrivato per la bravura e per la cattiveria dei padroni, si sia arrivato probabilmente per troppe illusioni in una classe operaia che non era classe, e mo lo dico perché lo tengo ancora, non era classe, perché è una condizione sociale, non può diventare una classe. Cioè, se no pure i carcerati fossero una classe, se no pure i carabinieri fossero una classe. Cioè, una condizione sociale non dà una classe è da tena a voglia di tenere il potere e o pigliare il potere. Chi si casa una classe perché il potere hanno sempre tutto, non lo mollano mai, sono 200 anni che non lo mollano, capito? Quindi c'è sta questo problema che ho sullo stomaco, che non volevo dirlo, mi è scappata la bocca, cioè è un problema, in Russia devono c'è il potere l'opera, perché se hanno fatto lo ha. Chi non faceva un cazzo in dei fabbri, c'era poco produttività, come andavano loro come vanno a fare la produzione, eppure si hanno fatto mettere sotto, si hanno fatto togliere tutto, allora questa non è una classe, è una condizione sociale, che i teorici rivoluzionari che hanno fatto bene, perché chiunque ha un sogno è un uomo, perché un uomo che non sogna è un ciuccio, insomma non, hanno avuto dei sogni nel Novecento, e Enrit sta classe da pigliare il potere perché ci faceva schifo a borghesia, i figli dei borghesi più colti, più rivoluzionari, più umanisti, erano comunisti, erano anarchici, hanno sognato il potere dei lavoratori, e noi questo sogno lo dobbiamo rispettare. E allora io vi dico, senza voler fare la predica da prete, che la compagna Mara che ha parlato prima dice, io mi sento vicino, pur essendo di questa generazione, mi sento vicino a questi ragazzi di tanti anni fa, e io in una cosa che ho scritto, mi faccio luoghi di pubblicità, tanto non devo andare in Parlamento, cioè ho scritto una cosa su un computer che non lo so usare, l'ho data che cazzo di memoria, cioè, babbo, l'ho data a un compagno di Roma, l'ho data a qualcuno, che sta scritto proprio questo, che il portato politico democratico, il discorso democratico attuale e fino del prossimo millennio, diciamo così, ce l'hanno regalato i contadini e gli operai del Novecento, questi qua che hanno fatto la resistenza, hanno fatto Stillot, hanno portato un discorso democratico alle generazioni che sono piccolo borghese per una condizione di classe, ma non lo sono nella mente. Quindi c'è sta una trasfusione di sangue, mo non siamo operai per condizioni sociali, no? Però lo siamo in un modo più fanatico per discorso sociale, cioè un discorso sociale futuro è quello che è stato fatto nel Novecento. Non è che le carici Bertinotto, ma anche i cano Novecento, tutto assassino. Qualcuno ha scritto una poesia, ho dormito fra gli assassini. Qualcuno si è un po' chiusciutato fra gli assassini. Comunque, tutti sono stati assassini nel Novecento, ma in mavere chi è stato assassinato? Ecco, perché non possiamo confondere il Vendicatore col boia. Cioè, Spartaco non è Crasso. Cioè, chi è perseguitato e si difende non è un assassino. Cioè, voglio dire, il Novecento è stato uno spargimento di sangue, ma è chi ha provocato? C'è stata pure una classe o una condizione di classe che si è avuta difendere dall'aggressione. Quindi il Novecento è stato violento per mezzo, che è stato violento il 600, perché è stato violento il 500, perché è stata violenta la classe dirigente europea, che è stata imperialista. Perché i cinesi a noi non ci hanno mai attaccato, e non ci hanno attaccato manco gli arabi, se vogliamo, perché noi volemmo arrubare Gerusalemme. Quindi è un problema nostro della violenza imperialistica da Nim, e noi che si mandi imperialisti, se non altro perché non teniamo i miei soldi e non teniamo il potere, non perché siamo più bravi. Questo discorso che hanno fatto i nostri antenati, operai e contadini, è il discorso che dobbiamo difendere, è il discorso democratico degli anni a venire. Non lo so come lotteremo per difendere questo discorso, come lo porteremo avanti, ma proprio perché il ceto medio è aumentato, significa che gli artisti, che quelli che fanno un mestiere libero, che fanno gli attori, i fotografi, i registi, che sanno dire qualcosa, che sanno fare qualcosa, porteranno un discorso innanzi dei contadini e degli operai. Perché io mo non ne vedo. Alcuni dicono però, perché senza l'operaio non riescono neanche a fare la pipì, dicevo, senza operai come facciamo? Allora, io dico questo. È vero che sono aumentati gli operai perché c'è stata tutta questa caspita di produzione di pomodori, di carciofi, eccetera, nelle serie. Però è una produzione schiavistica, stiamo attenti, perché la classe operaia è un fenomeno dell'Europa, delle città europee del Medioevo, che era legata, diciamo, alla classe popolari, c'erano i popolari e c'erano i nobili. E nella classe popolare c'erano i capamaste, c'erano i garzuni e c'erano i facchini. Quindi questa classe è nata all'interno dell'articolazione del lavoro dal Medioevo, dall'età moderna fino al Novecento. Però quando hanno fatto e fabbrica a borghesia con la sua rivoluzione industriale, ha fatto fora agli operai. Cioè gli operai si hanno manato a dire, ah, ma noi abbiamo mangiato. Cioè il discorso che faceva chi l'operaio, gli fatta la tecnologia, ma noi che ce ne fottono, noi faticiamo più poco e stiamo meglio. Cioè questo è il discorso che hanno fatto gli operai, che è molto simile al discorso che hanno fatto chi che non so operai. Diceva, buh, noi abbiamo mangiato, non ci capita, a banco, o spread, questo e che l'altro, e noi che mi fa? Io penso che questo è il discorso che bisogna afferrare, perché se pensiamo che il diritto sta scritto nella Costituzione, noi ci moriremo di fame. O diritto è da stare in tuo stomaco, dice, tengo un stomaco vagante e già mangiato. Questo è il lascito politico che dicono gli operai, i contadini del Novecento. Non lo so se mi sono spiegato, ma qualcosa l'avrò pur detto. Ma visti operai. Dicevo, In primis articolo, com'è la questione della Costituzione? Articolo 4, la Repubblica garantisce il diritto al lavoro. Però chi è che continua a fare sta solfa, non ha letto le righe sotto, c'è scritto, è un diritto non esigibile, per cui, ma in tutti i testi c'è scritto. Quindi è inutile evocare queste cose. Ma io modificherei leggermente la domanda, perché ha acquisito il fatto che Piazza Statuto, 3 giorni di scontri, eccetera, ha acquisito che non era essenzialmente l'operaio Fiat che faceva allegnate con le forze dell'ordine. Lo dice qualcuno lì durante il film, le boide, quindi gli operai dell'industria diffusa, quindi i giovani, eccetera, eccetera. E quindi pure lì la classe operaia, quella filigranata, era già un po' inquinata. Però, e quindi è chiaro che poi, se oggi uno riflette che fine ha fatto la classe operaia, è chiaro che se continuava a andare a Torino, è chiaro che Torino è cambiata, a Mirafiori mo ci stanno 5.000 persone, se non vado errato adesso, informazione approssimativa, e all'epoca magari ce ne stavano 70.000, è chiaro che è cambiata, insomma, no? Fanno pure cose diverse, la prospettiva è pure quella degli UDE, quindi è cambiata, c'ha difficoltà. E in ogni caso erano i lavoratori, eccetera, eccetera. Quindi non giustamente, come dice giustamente Alfonso, non la classe che ha bisogno del passaggio coscienziale, no? Va bene, però io la domanda che porrei a questo punto è che, acquisito sto fatto, è acquisito il fatto che dal 60-62 poi la corsa è continuata per parecchio tempo, ed era una corsa che puntava al rovesciamento dei rapporti di forza, puntava a una società diversa e acquistava delle caratteristiche, cominciava a dire allora no le organizzazioni sindacali, sì la costruzione delle capacità autonome, eccetera, eccetera, e così è rimasto fino a metà degli anni 90. Poi è successo qualche altra cosa, cioè oggi nel cosiddetto movimento mi pare che non c'è quella così analoga spinta a quel certo tipo di trasformazione, si parla d'altro, insomma, no? E d'altra parte pure quelli che per esempio come noi hanno fatto l'esperienza dei comitati autonomi, eccetera, eccetera, hanno mutuato una proposta organizzativa diversa, cioè negli ultimi 20 anni, un po' di meno. Va bene, sostanzialmente quello che passa all'interno dell'ex movimento antagonista è o una scelta di carattere sindacale o una così accentuata preoccupazione di quelli che sono gli equilibri istituzionali. Mo se parla della Siriza all'italiana, no? Ultimamente, cose di questo genere. Quindi io porrei questo tipo di interrogativo, ma che fine ha fatto la spinta rivoluzionaria che c'era negli anni 60? Perché è cambiato, che cosa è cambiato di strutturale? Non dobbiamo più aspirare a una società diversa, dobbiamo gestire solamente il quotidiano, dobbiamo garantire l'attraversamento del deserto che non si capisce bene dove porta. Io credo che la domanda dovrebbe essere questa, e la risposta pure c'è, cioè ci dobbiamo liberare nuovamente degli orpelli. Una volta erano le organizzazioni sindacali, fra l'altro la UIL di Piazza Statuto ancora c'è, non ci sarà più la classe operaia di Piazza Statuto, però la UIL c'è ancora, quindi probabilmente intanto ci dobbiamo liberare da queste cose, ma anche quelle che non so proprio la UIL, pure le altre cose, tutte le fesserie, le cazzate che si raccontiamo, e il sindacato conflittuale, queste belle storie qui, tutte storie, e va riconquistata una capacità di organizzare il conflitto. Io non lo so voi, però sono diventato vecchio, ma non mi sono mai annoiato, cioè, vertenze ce l'ho avuto sempre per le mani, anche significative, e stanno nei territori, e non è vero che c'è l'appiattimento generale. Ci sarà un rapporto di forza negativo all'interno dei posti di lavoro, ma nei territori la disponibilità al conflitto c'è quando si vede l'obiettivo, quando le indicazioni sono chiare, quando c'è rapporto, come si diceva una volta, fra soggettività sveglia e chiaramente una socialità che sente il problema. noi abbiamo troppa gente furba, anche fra i nostri ex compagni ci stanno troppi furbi, e quindi probabilmente questo è una delle questioni da affrontare. Io adesso, a fronte dell'intervento di Peppe e di quello che avevi detto anche tu prima, l'avvertenza del 62, cioè sopra il 62 resisteremo un giorno più di Rigo Piaggio, dove gli operai della Piaggio e di Pontedera vanno, sfilano tutti in giacca e cravatta, tutti no forse, però insomma la maggior parte delle fotografie che vediamo e quello che raccontano loro stavano in giacca e cravatta. Beh, lì c'è una situazione tanto differente rispetto a Torino, cioè a Torino è pieno di immigrati, a Pontedera no, a Pontedera i lavoratori di Pontedera si definivano metal mezzadri e anzi si vantavano del fatto, pur avendo preso le bastonate insomma negli anni precedenti, si vantavano del fatto che portavano lo stipendio pulito in banca, perché loro lavoravano in fabbrica e poi andavano a lavorare a terra, perché non c'avevano il problema della casa, perché quelli di Pontedera che lavoravano in 12.000-13.000 alla Piaggio di Pontedera erano 12.000-13.000 di Pontedera che tornavano a dormire a casa dove erano nati loro, i loro padri, i loro nonni, ed è per questo che loro le bastonate l'hanno prese come tutti gli altri all'inizio, però poi sono stati in silenzio per tanto tempo, per questo o anche per questo. E il discrimine, secondo me, anche a fronte a quello che diceva Peppe, è anche in questo rapporto pubblico e privato. Ecco, lì a Pontedera, fino a quegli anni lì, c'era chi faceva politica, lo faceva perché ci credeva lui, perché ci credeva, perché creava nel partito, ma una dimensione pubblica del fare politica, lì la raggiungono molto tardi, mentre invece c'era un bisogno completamente differente a Torino, a Genova o a Milano, perché le persone vivevano, prima ancora che lavorare una sull'altra, vivevano ammassati uno sull'altro. Allora lì in quel caso forse c'era qualcosa di simile a quello che era successo negli anni della guerra, insomma, c'era una prossimità, una vicinanza, per cui io non potevo fare a meno di te. Cioè stavamo insieme, stavamo uno sull'altro, per cui il pubblico era immediato, il privato, anzi era privato nel senso che non c'era proprio, gli eravamo proprio tolto, agli immigrati soprattutto, infatti la maggior parte sono immigrati, da quello poi che racconto anche tanti operai, no? le prime manifestazioni che stanno i padroni di cartapesta bruciati come si fanno nei funerali dei carnevali del sud, quindi lì c'è anche una differenza, e oggi noi viviamo ancora questa situazione. Per quanto ci si riunisca, si faccia un'assemblea, però poi ognuno, molti purtroppo, poi ritornano a chiudersi dentro la casa propria, dentro la propria dimensione, e quindi il privato diventa sempre più forte, sempre più presente in una dimensione pubblica che invece facciamo fatica ad attivare. Le lotte territoriali invece questa dimensione pubblica ce l'hanno per forza le cose, perché se tu mi fai due discariche a distanza di 500 metri anno, ci stanno 200 famiglie che bevono l'acqua dei pozzi, queste 200 famiglie dicono a noi ci avvelenano l'acqua, e quando mandano via quelli di Casa Pound appunto, li mandano via. Alcuni perché dice questi sono fascisti, eccetera, eccetera, ma altri perché dicono questi qui piano i soldi di Alemanno e Alemanno ci vuole fare discariche. Cioè il problema magari è molto meno di coscienza sviluppata vera e propria, però è una cosa per cui a un certo punto tu sei antifascista, io ti dico noi stiamo in piazza e non famo politica, che è una contraddizione ovviamente, fai politica, non la fai come ti ha insegnato il partito, però tutti e due siamo d'accordo sul fatto che qui viviamo noi e in questo posto a un certo punto sta arrivando il terremoto, e quindi il pubblico diventa per forza la cosa più importante, io devo uscire da casa per forza, tant'è vero che molto spesso, e qui chiudo poi intervento, nella maggior parte delle interviste che faccio, cioè che mi è capitato di fare in questi anni, c'è sempre il raccontare quello che accade lì, nel senso sì, ti raccontano per quale motivo sono sceso in piazza, eccetera, eccetera. Però poi c'è l'ingegnere italo-francese che ti dice: io stavo qui quando hanno cominciato a nevicare insieme a un rumeno e a un albanese. E noi stavamo qui, cioè, stavamo al presidio mentre nevicava. Noi abbiamo cucinato quello che ha dato il campo, insomma, per il presidio. Dice: noi tutte le sere facciamo delle gran magnate. È venuta la signora e ha portato tutti i panini. Sembra una stupidaggine. Però in realtà c'è questo vivere la comunità, no? che si fa fatica a ricostruire. Allora se non ricostruisci questo fai difficoltà anche a ricostruire una discussione politica, diciamo intesa come discussione politica vera e propria, insomma. Sì. io bisogna dire che dalle ultime cose che sono state dette, questa cosa che qualcuno ha detto, ma le lotte si fanno quand'è che manca il ricatto del lavoro, qualche altro ha detto ma le lotte si fanno quando mancano i soldi. Bisogna dire che secondo me io ho visto delle lotte fatte da persone che non hanno soldi, delle altre lotte fatte da persone che hanno soldi. Il problema penso che c'entrino certo i soldi, le difficoltà di trovare degli altri lavori, ma sia un problema di consapevolezza, e su questa consapevolezza i nostri avversari hanno inciso con la loro cultura, ma io lo vedo cioè com'è cambiato il costume di questo paese, per esempio, no? Ora, questo non è mio, che non mi intendo di musica, eccetera, ma noi avevamo prima una musica di 7 battute, che è diventata di 4 battute. Qualcuno ci ha pensato. Noi avevamo un certo tipo di cinema e ne abbiamo un altro. Noi abbiamo, per esempio, che non c'era quando ero giovane io, il ricatto della casa, cioè che la casa tu te la devi comprare, sei obbligato a comprarla. Quando ero giovane io c'era l'affitto e mi hanno sempre detto che in città come Roma c'era la pigione, cioè nel senso che nessuno ci pensava del nostro ceto a comprarsi casa, cioè era folle. Ma se tu obblighi un giovane a fare un mutuo di 30, di 40 anni, una giovane coppia a fare, è chiaro che non sciopereranno mai. È chiaro che rimarranno sempre attaccati a quella casa. Non avranno in mente andremo a rifarci una vita in un'altra città, in campagna, in un altro lavoro, queste cose. Cioè che si è lavorato per mandare a casa un popolo che quando ero giovane viveva fuori. Ma c'è stato proprio un lavoro di consapevolezza, ma chiaramente di violenza, di cose, un lavoro culturale per mandarlo a casa. Ecco, non dobbiamo negare questo. Cioè, in qualche intervento c'era appunto sì, cioè come se l'uomo fosse un po' tipo una molla, che dice ha il ricatto del lavoro e lui già non ha più il ricatto del lavoro, non è così. Cioè io penso che gli esseri umani, ma l'ho visto nella mia vita eccetera, non siano delle entità schedabili, meccaniche, c'è qualcosa sempre che non in tutti i calcoli che non è andato e spero che non vada ancora. E a questo punto, visto che diciamo si è fatta anche una certa ora, prima o poi dovremmo andare via da qui, questo è chiaro. E una domanda che potrebbe sembrare non entrarci nulla, allora c'è la verità che abbiamo cercato di raccontare attraverso i filmati di Piazza Statuto, attraverso le interviste che ha fatto Alfio, che sono state appunto restaurate, che ci restituiscono delle cose che normalmente non fanno parte della nostra memoria. Noi viviamo come se queste cose non fossero mai successe. È successo tanto tempo fa, forse sono stati teppisti, forse sono stati come quelli del 14 dicembre, la stampa li descrive più o meno alla stessa maniera ed è una cosa veramente imbarazzante per l'intelligenza di chi scriveva allora e di chi scrive adesso. Però a questo punto, visto che le lotte ci sono, ne abbiamo vista una che sta per iniziare, non sappiamo neanche come andrà a finire quella di Cinecittà, perché sembrava un input completamente diverso, sembravano più chiedere aiuto che rivendicare qualcosa, però questi sono e si sono mostrati così, semplicemente, non ci hanno raccontato una cosa diversa, ci hanno raccontato come sono e noi vorremmo capire che cosa succederà. E a questo punto però io appunto ci è piaciuto anche come loro sono venuti a raccontare quello che sta succedendo, perché effettivamente questa grossa speculazione esiste e in questa città insomma è la principessa delle speculazioni immobiliari e del cemento. Esistono le come si dice, le parole che ha detto Peppe, che non sono, che sono rispondenti a gran parte di quello che è successo, non descrivono la totalità della realtà. Però esistono i furbi, esiste il cercare di tirare acqua a un mulino che non è realmente la lotta che si sta facendo, però esistono anche le lotte sincere e reali, come quelle che raccontiamo attraverso i microfoni della radio, e come quelle che si vincono, si perdono, però l'importante è farle e affermare il diritto di voler esistere e di voler vivere qui e adesso in una maniera dignitosa per noi e per tutti gli altri, senza che finisca lo sfruttamento e che finisca la sopraffazione, non un domani, ma possibilmente adesso. E allora la domanda è una cosa molto semplice e non è neanche, insomma, tutta venuta da me. Questa famosa verità di cui noi dovremmo parlare, la verità storica, la verità di quello che ci sta circondando, secondo voi come si può raccontare o che cosa è? Una domanda troppo difficile. Allora c'è sui 10 comandamenti che ci raccomandano di non dire falsa testimonianza, e quindi ci viene raccomandata, e allora uno già è portato a disubbedire, non dire falsa testimonianza, c'è meglio carico. Cioè, per vincere un processo, se non c'è il suo testimone falso, saperte. Se tu dici la verità ti arrestano per falsa testimonianza, questo ve lo garantisco su mio padre che è morto. Io sono stato testimone a uno che non ha buttato sotto un vecchio, è caduto innanzi alla macchina, l'ho visto io in bicicletta, ma stavano arrestando per falsa testimonianza. Cioè, succedono queste cose. Quindi, la verità. La verità è una cosa che la scrisse Lenin, perché lui era la verità. E allora facendo un giornale La Verità, perché era lui. E non l'ha detta mai nessuno, e non la sa neanche nessuno. Cioè, si dice in termini di materialismo storico che la verità è un rapporto di forza fra le classi. Noi stasera abbiamo scoperto che c'è sta una condizione sociale che è stata caricata idealisticamente, non marxisticamente. Marx pure era un idealista, cioè ognuno ha i suoi difetti, cioè Marx era un idealista che pensava di essere marxista, e quindi si è smentito da solo. Cioè Marx faceva utif per l'operaio, questo è fuori discussione, non ragionavo quando parlavi l'operaio, li amava, cioè ognuno, cioè, amava pure la cameriera, amava i ceti deboli, e odiava quelli che avevano i soldi, esclusa Engels, comandaneva. Però diciamo così, questi sono i fatti più o meno che sappiamo, non sappiamo neanche se sono veri. Qual è la verità? La verità è che noi viviamo in un mondo che produce un sacco di merci, che ci stanno tanta soldi, che si chiamano, come si chiamano i soldi scientificamente? Capitale circolante, no? E se questo capitale circolante, che è 10 volte superiore al capitale reale degli stati, o PIL, cioè superiore a munnezze, missili, bombe, preservativo, borotalk, allora noi può rendere che gli soldi veri, se ma fa più preservativi, più borotalk, più bombe, più aerei, più elicotteri, più munnezze, e non è possibile. E non è possibile, cioè, capito? Non è possibile fare tutte queste merci per dire che quella moneta è vera. Quindi ci penseranno con la guerra, ma aumentano il petrolio e fanno fallisce l'Italia e forse pure la Germania. E questo fa parte della guerra commerciale. Poi se non basta che si fanno la guerra vera. Insomma, il capitalismo si comporta sempre allo stesso modo. E però noi diciamo che c'è sta classe operaia perché si producono queste merci. Chi produce? Questo bisogna capire, perché io ritengo che la classe operaia è una cosa spirituale dell'Occidente, è una condizione sociale che è stata elevata spiritualmente dalle classi rivoluzionarie di tipo borghese, perché Scheguer era borghese, Lenin era un principe, chi là di Cazzari in Napoli erano tutti principi, perché escluso Pisacane erano nobili, cioè praticamente questa gente qua ci è portata a istigare i poveri e dice ribellatevi che avete il paradiso sulla terra. l'inferno si è allargato, perché dice un proverbio forse cinese, dice le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, cioè questa buona intenzione del socialismo è fatta acqua. Noi comunque o accettiamo o fatto, come è accettato per 2000 anni il cristianesimo, accettiamo il socialismo come forma religiosa, cioè noi siamo socialisti e mangiamo senza fatica, oppure non lo so come andrà a finire. Cioè, perché almeno i cristiani avevano l'ostia gratis, noi invece eravamo una bistecca, qualche cosa, ma c'è cioè, mandato qualcosa per sopravvivere. Manco un brodo ce l'hanno, dice lui, chi lo sa. Io penso che sta cosa della classe operaia la dobbiamo accettare come un lasciato della filosofia del Novecento, ce la pigliamo perché ci appartiene, ci siamo affezionati, come a chi le caterne a Padre Pio, noi teniamo a Lenin. Però non possiamo mollare queste cose, sarebbe troppo brutto il mondo. Non so se velocemente anche gli altri, se non so. Non mettono i pasticci. Sì. Aspetta, no, cerca. Scusa. Dio, la verità, vabbè. Rispetto alla verità, adesso sempre pensando a Pontedera, mi viene in mente. Faccio due interviste a Pontedera, cioè ne faccio diverse, però a un certo punto rispetto ad uno sciopero dal quale poi viene fuori un processo perché hanno malmenato un operaio. Allora mi racconta Lanciotto, che il nome di questo signore è Lanciotto Passetti, sì, quella volta lì ci fu un errore perché venne effettivamente, alcuni operai gli andarono contro, adesso io non ho capito bene che cosa è successo, però probabilmente stanno malmenato, io sapevo che comunque da sopra ci facevano le fotografie, infatti poi sono uscito fuori all'archivio tutte le fotografie, quelle fatte dagli operai e tutte le fotografie fatte dall'azienda da sopra, e dice io corsi verso questi operai per fermarli, sapevo che mi avrebbero fotografato, mi sono messo la giacca in testa e poi al processo mi fecero vedere che ero stato fotografato poco faccia con la giacca così, ed era tutta una questione politica. Mi intervisto un'operaia, una donna, Graziella Nassi, e mi fa: ma no, ma quella fu una storia di donne. Dico: come una storia di donne? Eh sì, perché tra donne si confrontarono la busta paga del marito, quanto ha portato tuo marito, quanto ha portato il tuo, tutti avevano scioperato, ma il marito di una ha portato a casa la busta paga piena, no? E dice: quindi quello lì evidentemente uno che scioperava, però faceva la spia per il padrone. E quindi dice: allora, detta questa cosa, le mogli ai mariti, i mariti presero questo, gli legarono delle corde dietro la schiena, gli misero dei ossi di pollo attaccare a queste corde e lo portarono in giro con un bussolo, dice lei, il bussolo corcanino, cioè un barattolo da vernice da Max Meyer, e facevano: è morto, pischero, pavimma, e gli fecero il funerale, no, a questo qua. Poi se dettero pure due schiaffi, non lo so, insomma, però. E lei conclude dicendo: lo fecero girare, ma poi girarono loro, perché questi qui vennero processati. Allora, rispetto all'idea, allora, qual è la verità? Ecco, è invece molto più interessante, secondo me, vedere i diversi punti di vista. A me spesso è capitato, soprattutto in situazioni di fabbrica, dove le operaie donne erano molto poche, negli anni, insomma, negli anni 50, per esempio, negli anni 50-60, rispetto agli uomini, che erano tanti di più, che gli uomini ci avessero in qualche maniera la patente per fare politica, mentre le donne in qualche maniera... Sì, facevano pure, però insomma partecipavano e non partecipavano, sembrava che non ci fossero, insomma, che come l'angelo del focolare e l'angelo del ciclostile ci fosse pure l'angelo della fresa, insomma. E invece il loro punto di vista è molto interessante, non che sia più interessante di quello degli uomini, ma che in un certo senso rovescia una situazione che sembra tetra, triste, appunto ordinata, schematica, che è quella della politica dell'Anciotto Passetti uomo, rispetto alla storia vista da un altro punto di vista e che però non la completa, ma sicuramente l'amplia, l'ampolpa, che è quella di Graziella, che te la racconta quella storia, ma te la racconta anche nella sua forma tristemente goliardica, insomma. Facciamo un passaggio veloce di microfoni. Mi sono chiesto tantissime volte io nel mio lavoro, nella vita, che cos'è la verità, e sono arrivato alla fine della vita a capire che la verità non è certo quello che è successo, cioè allora le microspie, le telecamere per aria, per terra, eccetera, racconterebbero la verità. La verità è qualcosa che io penso non esista. Nella natura non è uno degli elementi che compongono i mondi, gli universi, cioè non c'è, c'è ossigeno, idrogeno, carbone, silicio, insomma tutte queste cose, ma la verità no. Penso che la verità si debba fare. Cioè io penso che la verità si debba fare, che non esista in natura, e la verità consiste in primo luogo nel cercarla, nel vederla, nel pensarla, che cos'è il bene, che cos'è il male, e poi prendere il bene e metterlo dentro il cuore delle donne e degli uomini. E il difficile è questo, cioè riuscire a mettere la verità, quella che si è fatta, quella che si è costruita insieme, dentro il cuore delle singole persone. E questo mettere dentro il cuore è la componente principale della verità. A quest'ora, dice giustamente qualcuno, si passa alla filosofia ormai. Va bene, io penso che con queste ultime parole possiamo chiudere insomma il dibattito. Io vi ringrazio, che non è chiaramente chiuso, nel senso che lo continueremo dai microfoni della radio, lo possiamo, è una cosa che dovremmo continuare a fare anche come compagni e compagni, perché è una cosa che anzi dobbiamo fare tutti i giorni come compagni e compagni. Io ringrazio tutte le persone che sono intervenute, Ascanio, Daniele, Alfonso, Tano, Margherita, insomma, che stava qui con me, Tamara Bartolini, Michele Baronio, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Onda Rossa che hanno seguito anche il dibattito in diretta. Ringrazio il Fringe Festival che ci ha ospitato e naturalmente continuate ad ascoltare la radio. Anche Giorgio. Chiaramente, certo, anche Giorgio Antonella e Alfio che ci ha regalato, insomma, questi pezzi di memoria che, insomma, sono importanti. Un abbraccio a tutte, insomma, ci rivediamo presto.